Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia, e come vi avevo promesso ieri, perché le promesse le manteniamo, c'è Andrea Zorzi qui con me. Ciao Andrea. Oggi un ospite in prima fila. In prima fila, caschi male perché è il campionato più isterico del mondo, come ben sai, e quindi oggi ci toccherà parlare di fotogrammi, di palloni che hanno superato oppure no una linea bianca, di fotografie che si è scatenata tutto un polemicone, quella apparsa sul sito del Milan che mostra palla entrata in maniera piuttosto netta, però c'è qualcuno che dice ritoccata con Photoshop. Abbiamo una miriade di commenti anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter, insomma è il giorno giusto per divertirci insieme. Intanto Tom Bonen, grande favorito della vigilia, e ve la do subito questa notizia, ha vinto il Giro delle Fiandre battendo in volata Pippo Pozzato e Alessandro Ballan, quindi due dei nostri che finiscono sul podio, ma non sul gradino più alto, se lo prende Re Bonen. Cancellara, altro dei grandi favoriti, è invece caduto in questa classica del nord, in questa corsa monumento, ed è finito in ospedale per accertamenti. Quanto alle partite del pomeriggio, riflettori puntati sulla prima Inter di Stramaccioni contro un Genoa improbabile, improponibile soprattutto in difesa. Tanti gol e l'Inter che sta vincendo. Per tutti gli aggiornamenti saluto Dario Ricci che ci dà i risultati parziali. Sì, buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio Andrea, ecco i parziali. Allora partiamo, siamo intorno chiaramente al 31esimo di gioco su tutti i campi, Cagliari-Atalanta 2-0 per i sardi, in gol all'11esimo Conti, al 10° della ripresa Piniglia in questo istante, tra l'altro aggiornamento in diretta, Hernandez porta in vantaggio il Palermo a Bologna, Palermo 2 Bologna 1, un Bologna che era andato in vantaggio con Sorensen, poi c'è stato proprio al 23esimo della ripresa il pareggio di Donati su un calcio di punizione su cui Budan ha fatto un velo intelligente a ingannare Gillet, e ora è arrivato il 2-1 di Hernandez, ancora Budan protagonista, in contropiede la respinta di Gillet e poi pallone che arriva all'uruguaggio che sigla il 2-1. A Firenze 1-1 tra Fiorentina e Chievo, Clivenzi in vantaggio con Pellissier al 24esimo e poi al 26esimo della ripresa il pareggio di Ljajic con una splendido calcio di punizione dai 22 metri. Inter in vantaggio per 4-2 sul Genoa, a chiudere di fatto in questo istante almeno la partita, è arrivato un paio di minuti fa il gol di Mauro Zárate, una splendida discesa di sull'out sinistro, e poi il Zárate è stato molto bravo a calciare invece di destro sul palo più lontano e quindi è arrivato il 4-2. Siena in vantaggio sull'Udinese per 1-0, la rete pochi istanti fa di destro, ora tra l'altro a San Siro calcio di rigore per il Genoa, espulsione di Julio Cesar che è uscito alla disperata su Palacio, lanciato in contropiede, calcio di rigore ed espulsione, fra poco vi raccontiamo in diretta anche questo gol. Per il momento gli aggiornamenti sono finiti, ma non ci si riesce a stare dietro. No, soprattutto in questo momento l'Udinese è la peggiore della stagione, sta perdendo con il Siena in modo strameritato, anche se da registrare in cronaca un palo per parte, il primo di destro e il secondo nel primo tempo, il secondo di Natale, però una partita totalmente dominata dal Siena che proprio con destro, con Mattia Destro, sta vincendo questa gara. Se c'è una chiara occasione da gol e un rigore solare è proprio quello che è stato fischiato ora a San Siro, e vediamo come va, mentre stava per entrare ovviamente Castellazzi nell'Inter che chiuderà in 10 e Palacio che sta per andare sul dischetto per il calcio di rigore. Ma non ci va Palacio, ci va Gilardino, Dario Ricci. Sì, proprio Gilardino dagli 11 metri contro Castellazzi, appena entrato in porta il tiro e il gol. 4-3 al 34esimo, precisa la conclusione di piatto destro di Gilardino, Castellazzi intuisce, non ci arriva, e allora altri 10 minuti parecchio effervescenti a San Siro con un Inter di Stramaccioni che al di là del risultato e di una certa verve, Carlo, ma ora sì, la analizzerai meglio anche con gli ascoltatori, non è sembrata poi tanto diversa da quella di Ranieri. No, non diversissima. 800 24 00 24, a proposito del numero verde, un Inter che propone il 4-3-3 di Stramaccioni, che ripropone ovviamente i segnatori Savia, Zanetti, Stankovic, Cambiasso subito in campo, i tre davanti, la novità grande è Zárate che fatto un gol bellissimo prima, come hai raccontato, nei tre davanti, gli altri due sono Forlan e Milito, che ha messo la doppietta. Andrea, ti leggo questo striscione comparso oggi a San Siro. Presidente, vai. Abbiamo capito che sei bravo ad esonerare gli allenatori, ma quando lo farai con Lecchini e servitori? Urca. No, però dai, curioso, insomma, per un club come l'Inter che dopo Mourinho, sia arrivata tutta questa sarabanda, secondo me non c'erano gli estremi per l'esonero anche di Claudio Ranieri, e a me resta sempre il dubbio che troppe persone comandino anche tra quelle che vanno in campo. La sensazione dall'esterno è un po' questa. Tra l'altro io in questi giorni ho passato un paio di giorni a Catania, sì, te ne parlavo prima. Questo ci interessa sapere, sei stato nel regno di... Torre del Grifo Sport Center, ed è un centro sportivo realizzato dal Catania Calcio, alle pendici dell'Etna, Mascalucia, proprio il nome del paesino piccolo, ma lì è un groviglio di piccoli paesini. È un centro sportivo costruito in un anno e mezzo, ma molto bello, che a differenza di altri centri sportivi di squadre calcistiche che prevedono tanti campi da calcio, un po' di residence, lì c'è anche un centro polifunzionale con piscina, palestra pesi e quant'altro, che è aperto alle persone del territorio vicino. Impera, lo dico sinceramente, impera la figura di Lo Monaco, che in questi giorni è in Argentina. Mi avete confermato che lui è uno che ha reti di contatto piuttosto seri in Argentina, ed è con quello che hanno fatto... Basta guardare la squadra, sì, con quello che hanno fatto fortuna, e si dice anche che potrebbe essere nuovo dirigente dell'Inter. E questa era la preoccupazione che a Catania, insieme con l'eccitazione per la partita di ieri, mi hanno dato del matto, ma come sei a Catania e te ne vai e non guardi la partita? Mm-hmm. Perché ti lascio immaginare, erano due mesi che era tutto pieno. Sì. Però insomma questa preoccupazione che lo Monaco se ne vada, e di conseguenza tutto ciò che è stato costruito in questi 9 anni, credo siano più o meno il periodo in cui è cambiata la gestione del Catania Calcio, e sono molto molto preoccupati. Che lì non è solo un dirigente, non è semplicemente quello che fa il mercato. Lo hanno descritto, io riporto, al di là di aver visto in questi giorni delle TV della zona, la frase famosa di Mourinho, io conosco Monaco tibetano. Monaco di Tibet, Gran Premio di Monaco, Gran Prix di Monaco. Bayern Monaco. Ma non conosco Monaco. Se vuole farsi pubblicità con me mi deve pagare. Esattamente, hanno più volte riutilizzato. C'è questa preoccupazione che lui se ne vada, ed è uno, per esempio sul centro sportivo dicono lo Monaco ha deciso la posizione di ogni singola pietra, si occupa della squadra e decide ogni singolo giocatore, qualunque aspetto riguardi l'organizzazione, e la preoccupazione che se ne vada significa anche in quanti devono arrivare per sostituire uno che ha così grandi capacità. Che fa tre lavori in uno, che vale tre persone. Mi ricollego velocemente, venuto in mente, perché anche dopo Mourinho è stato un po' così, cioè è difficile sostituire una persona con una che grande ha così tanto potere anche. E gli viene dato così tanto potere. Qui viene lui dato così tanto potere. Se lo prende, lo gestisce. E ieri a Catania c'era anche Paul Lillo, ossia direttore, non so bene il ruolo, ma comunque se ne parlava. Mi raccontava un po' di questo passaggio. Era lì a far firmare. No, per la verità, era lì ufficialmente per fare una lezione in questo corso di management sportivo che viene gestito all'interno di questo centro sportivo. E quindi poi parlava un po' di questa scelta su Stramaccioni, del fatto che allenava 2 anni fa, credo, le giovanili della Roma, poi sono riusciti a convincerlo ad andare all'Inter, che c'è stato un po' di competizione, guarda caso, con le nazionali, perché Arrigo Sacchi avrebbe voluto avere Stramaccioni alla guida delle squadre giovanili, poi invece l'Inter ha avuto la meglio e adesso a lui sembrava che questa potesse essere un'occasione. Io mi sono limitato a dire, guarda, che forse questa scelta è sicuramente interessante, ma vale la pena provare a creare un ambiente di protezione per fare sì che queste partite non siano una cosa specie di griglia in cui viene arrostito il giovane Stramaccioni. A proposito di Inter, Dario Ricci. Per l'Inter, Milito sul dischetto contro Frey, il tiro, il gol, 5-3 e tripletta personale per Diego Milito, e Genoa tra l'altro in 10, perché sull'azione che ha portato al rigore c'è stato il fallo, forse per la verità anche abbastanza dubbio, di Bellucci su Guarin, nel senso che il genuano sembra intervenire sul pallone e poi solo successivamente colpire il centrocampista interista, interpretazione questa che non è stata quella però dell'arbitro Valeri, che oltre al rigore ha fischiato anche l'espulsione, ha sancito anche l'espulsione per il genuano, quindi da qui il rigore che vi abbiamo raccontato in diretta, trasformato da Diego Milito, e parità numerica quindi ristabilita, sia l'Inter che il Genoa sono ora con 10 uomini. Un paio di osservazioni in merito a Siena Udinese, grande protagonista il portiere senese Burkic, che che 3 minuti fa ha salvato su tocco da 1 metro di Di Natale con una respinta straordinaria, e pochi istanti fa ha concesso il bis con un destro a giro su un destro a giro dello stesso capitano udinese. Grazie Dario Ricci, naturalmente ci teniamo collegati. La sagra del maiale, o della porchetta se preferiamo, a San Siro oggi. Tanti gol. No, ci si può lamentare sempre. Se non si fanno gol, non va bene. Se ne fanno tanti, siamo contenti, raccontiamo. Ieri in Germania è stata una partita, credo Stoccarda contro Düsseldorf, qualcosa del genere. A 20 minuti dalla fine vinceva 2-0 una delle due squadre, non so bene quale. In 10 minuti è finita 4-4 la partita. Certo, anche a Manchester stavano perdendo 3-1 i ragazzi di Mancini, poi Balotelli e Kolarov 3-3. Cose che in Italia accadono poche volte, perché le difese non fanno sbarioni. Senti, ma cosa mi dici di questa fotografia, di questo Photoshop? Poi ti faccio sentire Galliani che si lamenta, eccetera eccetera, che per adesso... Allegri che si lamenta, si lamentano tutti. Guarda, oggi Sconcerti ha scritto una cosa carina, intelligente, su Corriere della Sera. Sembra quasi che adesso in tutta questa perversione convenga subire gli errori per poi potersene lamentare. Beh certo, si sfruttano gli errori nel modo migliore possibile, questo è vero. Sì. Riguardo al foto ritocco, ne sono un po' sorpreso, perché finora mi ero limitato a pensare che fotoritoccassero le modelle. Sai, c'è questa polemicona, tutte magre, con la pelle lucente, perfettamente liscia. C'è un sito su internet che si chiama Tine Eye, piccolo occhio, con il quale hai la possibilità di caricare o una foto o il link di una foto. Lui ricerca sul web, sull'immenso oceano del web, l'eventuale originale di quella foto, e ti può far vedere eventuali contraffazioni. Ed è molto interessante, perché lo usano per questioni a volte anche più serie. C'è un caso che mi riguarda personalmente, qualche tempo fa. Chi ha segnato intanto? Ha segnato il Palermo, no Dario Ricci? Il Palermo, tra l'altro, con Ilicic, che ogni tanto diciamo si fa vedere in campionato, e avendo i piedi buoni quando lo fa lascia il segno. Palermo che al 41esimo del secondo tempo si porta sul 3-1 a Bologna, gol che di fatto chiude la partita, che fra qualche istante sarò anche in grado di raccontarvi. Un Palermo che ha rimontato lo svantaggio iniziale. Eccolo qui il contropiede dei rosanero con Hernandez che si allarga sulla sinistra, il cross al centro, Ilicic anticipa il difensore rossoblu, che anzi forse a me sembra in realtà un autogol, poi lo vediamo anche con Tinai e con qualche altro sito, ma a me sembra proprio un autogol. Comunque di fatto sta che è 1-3 il risultato, non cambia, 3-1 per il Palermo al Dallara. Traffico, poi voglio chiedere ad Andrea Zorzi se è riuscito a capirne qualcosa su quella foto. Si tratta sempre Fotogramma. Si tratta sempre di rotondità, ma non sono quelle delle modelle. Traffico. Sagra del gol a San Siro, ma c'è anche il Chievo che inguaia la Fiorentina. Dario Ricci. Sì, allora partiamo proprio da quest'ultimo gol. Chievo in vantaggio a Firenze per 2-1 con la rete di Rigoni. C'è stato un errore di Pasquale in disimpegno difensivo, pallone che è arrivato a Paloschi che ha crossato in centro, e Rigoni è riuscito a insaccare il 2-1 che inguaia appunto la Fiorentina, ora pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere. A San Siro 5-4 il risultato a un minuto e poco più dalla fine, perché c'è stato un nuovo calcio di rigore per il Genoa, il fallo di Lucio su Sculli. Valeri non ha avuto dubbi assegnando il penalty, trasformato anche in questo caso da Gilardino con un destro centrale che ha spiazzato Castellazzi. Quindi Inter 5, Genoa 4. Iniezione di autostima, doppia iniezione di autostima per Gilardino. 8-0-0-24-0-0-24. Allora, rotondità. Sei riuscito Andrea Zorzi a capire se quel fotogramma... No, però potrebbe essere interessante anche per capire in quale ginepraio ci si infila quando si decide di usare la tecnologia televisiva, Il discorso è avere, come accennavi te, il sensore nel pallone che ti dice è entrato o non è entrato. Ma sì. Però... ma anche perché, guarda, ti dico la verità, quell'episodio l'ho visto 10 volte a rallentato, io non ho capito se è entrato. Poi se quel fotogramma sia perché corretto... Quello è piuttosto chiaro. Mi sembra davvero un errore del tutto umano, un errore che ci possa stare, su cui è stato montato un caso pazzesco. Partita non arbitrata benissimo quella di ieri sera, di fuori gioco fischiati che non c'erano in maniera abbastanza solare, però mi sembra davvero un peccato veniale questo... Però adesso si stava parlando non tanto della reazione da avere su situazioni che, come dicevi te, possono essere plausibili. Sì. Qui c'è il discorso, lì c'è una foto sul sito del Milan che sembrerebbe essere definitiva, molto più di quanto non lo siano tutte le altre foto in giro per il web. Sì, però, quindi ti ripeto, visto a rallentatore io non ho capito se la palla era entrata. Senti questa, polemiche per un fotogramma taroccato sul sito del Milan, il pallone è entrato, al posto di Robinho c'è Denzel Washington, questo è un commento dei nostri ascoltatori. Un altro, non riusciamo a stabilire neanche col fermo immagine se è gol o no. Pretendiamo che l'occhio umano sia infallibile, oppure è chiaramente una foto taroccata degna di novella 2000. Questo scrivono i nostri ascoltatori scatenati sui nostri contatti Facebook e Twitter. Come fanno a sapere che è sicuramente taroccata? Ma cosa ne so io? Insomma, sono più bravi di te con quel sito lì che... Piccolo occhio, piccolo occhio a caccia delle smagliature delle modelle. C'è Giacomo Bagnasco, finisce l'Inter 5-4, questa sagra del gol con Moratti che si alza e lancia un urlo liberatorio. Giacomo Bagnasco, buonasera. Dobbiamo parlare di questa partita innanzitutto, o posso fare a meno? Puoi fare a meno da genuano, abbiamo 3 minuti per dire 2 cose di rugby invece. Sì, dobbiamo dire che finito il Sei Nazioni siamo tornati alla Celtic League, che quest'anno si chiama Pro 12, e le squadre italiane continuano a non andare bene. Proprio in occasione di uno dei turni del Sei Nazioni, in realtà gli Aironi sono riusciti a battere il Munster campione in carica, adesso tutte le squadre sono tornate a ranghi completi e le cose vanno male. Gli Aironi hanno perso 45-7 in Irlanda dall'Ulster e il Benetton Treviso ha perso in Galles 41-10 dagli Ospreys, squadre sicuramente di valore, squadre che occupano la parte alta della classifica, mentre per quanto riguarda le nostre formazioni per quanto riguarda gli Aironi, quantomeno, ci sono problemi anche fuori dal campo, c'è una situazione finanziaria difficile legata anche alla rinuncia da parte di alcune componenti di questa franchigia. C'è la federazione che ha proposto / in un certo senso imposto una soluzione su cui gli Aironi hanno trovato da dire, vedremo, insomma, adesso ci sarà comunque un consiglio federale appositamente su questo argomento e vedremo se questa franchigia avrà la forza per andare avanti. Il Benetton invece fa parlare per un altro motivo. Sapete che a novembre gli All Blacks verranno a giocare in Italia, giocheranno a Roma e qui si sono aperte un po' di polemiche, perché tutto sommato sarebbe stato bello anche rivederli a San Siro, visto che Roma il grande rugby ce l'ha già, certo. E all'Olimpico ormai, certo. Per il Sei Nazioni, però pare che ci siano state un po' di reticenze da parte di Milan e Inter sulle date. Avevano proposto le due squadre milanesi agli All Blacks di cambiare la data in cui giocare a Milano, far giocare il 10 anziché il 17, insomma non se ne è fatto niente. Vanno a Roma, il CONI è bello contento, anche perché fa degli incassi che ormai con le due squadre di calcio non riesce più a fare, però alla fine di questa tournée potrebbe essere che alcuni giocatori ricevano un permesso sabbatico, alcuni giocatori degli All Blacks. E la voce che ha cominciato a girare è che spendendo un po' più di 1 milione di euro da gennaio alla fine della stagione 2012-2013, il Benetton potrebbe far giocare nelle sue file Carter e Mecco, cioè sì, come dire, il massimo dei massimi. Come dire Messi e Ibrahimovic, cioè due superstar pazzesche. Speriamo che non sia solo gossip, questo sarebbe un... Speriamo di no, è arrivata qualche smentita dalla Nuova Zelanda, però pare che... qui in Italia tengano botta e che dicano, insomma, l'impressione che qualcosa ci sia, la volontà ci sia e forse c'è stato anche qualche contatto, sono due giocatori che verrebbero comunque a impreziosire grandemente il ranking della squadra italiana del Benetton e sicuramente sarebbe e anche una il nostro cosa rugby, sarebbe una cosa fantastica. Giacomo, senti questa, se per caso Carl ne parla male adesso, ricordiamogli che a inizio stagione, quando si pensava che Kobe Bryant potesse giocare in Italia, difendeva quella posizione. Certo, ma io lo difendo anche per Carter e McCoy, faccio il tifo con la bandiera perché vengano a giocare qui. Grazie Giacomo Bagnasco, abbiamo 30 secondi per Dario Ricci per i finali, 30. Allora, 30 ne mancano anche a Lecce, che è diventato l'unico campo dove ancora si gioca, siamo ancora sullo 0-0, risultato importante per vista anche la sconfitta casalinga della Fiorentina per 2-1 sul Chievo, vince invece il Cagliari 2-0 sul Atalanta, 3-1 del Palermo a Bologna, Udinese sconfitto a Siena per 1-0, goleada dell'Inter che però ne prende anche 4, 5-4 per nella prima di Stramaccioni. Benissimo. Sul Genoa e 5-2 nell'anticipo di mezzogiorno della Roma sul Novara. Perfetto, grazie Dario Ricci, a dopo il GR. Guardi questa immagine qui, così la battuta se l'ha fatta sola. No, ma voglio dire, no, la battuta se la faccio da sola. Se la vede, poi la battuta la faccia lei. Va bene? Eccolo. Ha visto adesso? Adesso faccio le battute. Penso che se l'è presa con Carlo Pelegatti, in questo... Gli dava del lei? Gli dava del lei. No, ma poi tu caschi male, perché mi ricordo che eri con me anche il lunedì successivo alla famosa zuccata di Muntari, no? Altro che. La linea bianca è evidentemente corretta, guardate bene, scrive Luciano, SMS 349-238-6666. Sotto questa, sul sito del Milan, ricordiamo, sotto questa... Io un po' smanetto con Photoshop, ed effettivamente... Tu sei per il tarocco? Non te lo so dire. Credo che se Sky avesse avuto a disposizione un'immagine così chiara come appare sul sito del Milan, avrebbero fatto un uso più che giustificato di quell'immagine, ma non mi pare che abbiano... Cioè, ci hanno fatto vedere mille riprese, mille immagini, e non si capiva, però non si era così certo, no. Quindi l'idea, com'è che hanno trovato sulle immagini di Sky qualcosa di così? Ma io torno a ripetere, comunque c'è questa onda di indignazione, proprio il motivo per cui dicevo prima, subito questo errore lo si enfatizza, però mi pare un errore del tutto umano. Detto questo, io vorrei il pallone con il sensore, ma lo dico tutte le volte, non, probabilmente non lo vedremo mai, ma chi se ne importa, è bello anche così, no? I super periti 8-0. CSI, NCIS, esperto di Photoshop, e poi in realtà ci sono cose anche molto più complesse di Photoshop, per capire se andiamo davanti al giudice con le foto. No, ma la tua è tarocata. Il famoso dossier. 800-24-0024, come avete sentito anche nel GR, ma prima anche con noi, perché vi abbiamo dato i finali. Il Palermo che vince 3-1 a Bologna, dopo Sørensen segnano Buder, Hernandez e Iličić. 2-0 del Cagliari sull'Atalanta, gol di Conti e Piniglia. La Fiorentina è inguaiata, ma le va bene perché dietro sono fermi o vanno comunque pianissimo. Questo 0-0 tra Lecce e Cesena è pesantissimo per il Lecce soprattutto, mentre la Fiorentina perde in casa 2-1 con il Chievo, il gol di Pellissier, la punizione di Ljajic meravigliosa a pareggiare al 26esimo della ripresa e poi il gol di Rigoni al 43esimo. 5-4 e già lo chiamano Zdenek Stramaccioni sui vari contatti Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. 5-4 dell'Inter sul Genoa con la tripletta di Milito, il gol di Samuel. E poi una ripresa, vari rigori, espulsioni, segna Palacio, poi Zárate per il 4-2, poi il rigore di Gilardino e poi di nuovo Milito su rigore, poi di nuovo Gilardino su rigore. Insomma, partita dai mille episodi, in realtà. Carlo, dimmi. Ti chiederei di dar ragione di un termine che hai usato la prima mezz'ora, che era "e ovviamente oggi tutta la vecchia guardia in campo", ovviamente, parlando oggi, dell'Inter, tutta la vecchia guardia in campo, che ha una dietrologia. Mi sembra evidente, no? Cioè, mi sembra evidente che chi è andato via non fosse più così gradito alla vecchia guardia, anche quelli che vengono sostituiti, si mettono in panchina e piangono dalla disperazione, come era successo con Cambiasso. Insomma, non è un mistero così gigantesco il fatto che questi giocatori della vecchia guardia siano così influenti presso il presidente. Insomma, oggi è arrivato il giovane Stramaccioni, vecchia guardia massicciamente in campo, con Poli a centrocampo, cambio di modulo, rispolvera Zárate che peraltro fa un bel gol e l'Inter vince 5-4. Poi sarà interessante anche capire se Moratti si è divertito, ma ce lo dirà, non vi preoccupate, prima o poi. Tanto sentiamo cosa ci dice Luca da Torino. Sì, buonasera. Io dico che il signor Valeri sarebbe l'uomo adatto per il signor Marotta, così, giusto per iniziare a essere buoni. Valeri, che è l'arbitro di Inter Genoa di oggi, sarebbe l'uomo adatto per il signor Marotta. Ci sono troppi signori, faccio fatica a capire. Valeri sarebbe adatto per Marotta perché? Ma così farebbe una bella scorpacciata di rigore, insomma, perché su 4 forse ce n'era uno. Su 4 forse ce n'era uno. Mano di Zanetti ci poteva stare, chiaro quello di Julio Cesar su Palacio, sì, dubbio quello di Belluschi su Guarini, il fallo di Lucio mi sembra ci sia. Non starei a sottilizzare, non ho capito dove vuole arrivare, però no, è una battuta da primo aprile. Ho capito, sì. Allora la famosa foto è finta o è vera? Ma io dico solo che abbiamo una dirigenza della federazione che andrebbe veramente non azzerata, sotterrata, perché queste cose succedono quando il potere, diciamo, è debole. Noi da anni che non c'è una dirigenza valida e vengono fuori scandali, vengono fuori scommesse, viene fuori di tutto. Ma queste cose però ci sono sempre state, in realtà non c'erano ancora Photoshop, sono cambiati i mezzi, però insomma dai centimetri di Turone a, se vuole andare ancora più indietro, queste cose ci sono sempre state, così come c'è sempre stato uno scarso senso di responsabilità da parte di chi dirige il gioco, non necessariamente i dirigenti della federazione, perché cominciare a parlare, come ha fatto Galliani, in maniera impropria, inopportuna, di campionato falsato da queste cose, ecco, io non lo condivido e non avrei voluto sentirlo. Falsato se non lo vince. Falsato se non lo vince, naturalmente. Se lo vince va bene. Tutto regolare, caro Andrea Zorzi, ci mancherebbe. Prima di Angelo da provincia di Grosseto, 800 24 00 24, numero verde. Milan 64, Juventus che gioca stasera 59, stasera Juventus-Napoli è una partitona per entrambe, davvero molto importante. Perde la Lazio ieri e rimane a 51, il Napoli vediamo cosa fa, perde anche meritatamente l'Udinese oggi a Siena 1-0, gol di Destro, giocando una pessima partita per la verità, rimane a 48 insieme al Napoli. La Roma risale dopo questo 5-2 sul Novara e va a 47 a respirare addosso a Udinese e Napoli. L'Inter è ancora staccata di 3 punti rispetto alla Roma 44, Catania 43, Palermo e Chievo 39, Atalanta-Cagliari 37, Bologna-Siena 36, Parma 35, Genoa 34, Fiorentina 33. Occhio Genoa e Fiorentina perché sono lì, il Lecce non riesce a vincere la partita della vita, qual era quella secondo me oggi con il Cesena, rimane a 28, Novara 24, Cesena 19, questa la classifica. Angelo, provincia di Grosseto. Sì, pronto? Pronto, dica. Pronto? Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno. Niente, innanzitutto la volevo ringraziare perché date molto spazio al rugby, non c'entra niente con la trasmissione, però vedo che... E poi, forse è stato già detto da altri, però perché non applicare, visto che ci sono continui e ricorrenti errori da parte degli arbitri, non applicare la semplicissima prova televisiva del rugby, perlomeno sulla linea della porta per stabilire se è gol o meno. Sì. Io sono di parte perché sono del Milan, sono del Milan da quando c'era Gianni Rivera, dagli anni 60, per cui. E volevo dire che sia falsato il campionato, è un dato di fatto. Cioè, perché? Perché è falsato? Perché? Falsato perché se la palla entra e i 3 punti, i 2 punti in più non li prendo, alla fine è falsato quest'anno come è stato falsato 10 anni fa, come diceva lei Turone, io sono abbastanza vecchio per ricordarmi. I vari problemi che ci sono stati in passato con insomma Turone, Angelo, ma episodi di questo genere, insomma, allora è falsato anche il mondiale per l'episodio più clamoroso dei tempi recenti di gol non gol, lei si ricorderà quella semifinale con la palla dentro in maniera solare, quel tiro calciato da Lampard, attraversa, palla dentro i 2 metri. Allora è falsato tutto quanto, possiamo dire che è falsato oppure possiamo usare termini più consoni, più civili, dicendo che sono stati degli errori umani, anche grossi, non quello di ieri sera, Ma... guarda, se l'obiettivo è l'ipotetica perfezione, cioè fare in modo che non ci sia nessun caso dubbio nel mondo dello sport, è ovviamente un'aspirazione irraggiungibile, anche perché in questo caso è vero che il gol del Milan con la Juve c'era, ma c'erano altri casi, e quindi sarebbe falsato se riuscissimo ad avere la lista completa degli errori, valutare i pro, i contro, e alla fine si dice guarda, è andata così. Ma questo mi pare sia fuori da ogni senso. No, ma perché io non condivido chi vuole applicare la certezza del diritto a un gioco meravigliosamente imperfetto come il calcio. L'altro caso è vero che adesso anche a me piace molto il fatto che nel rugby ci sia questo settore, sì, che su richiesta dell'arbitro gli dà una mano, però non lo fanno vedere. Evidentemente la cultura e l'ambiente intorno al rugby è disposta ad accettare una decisione di questo genere, perché protestano un po', ma fino a un certo punto. Temo che questa operazione, fatta in un mondo come quello del calcio, con così tante pressioni, avrebbe effetti un po' diversi. No, poi è chiaro che non è che lo possiamo fare soltanto noi, ma deve essere una decisione che, cioè, una domanda da rivolgere a Platini, che peraltro, e a Blatter, che peraltro hanno risposto in maniera diversa, ma molte volte su questo tema. Faccia da ragazzino, non so se somigli più a Mourinho o a Mr. Bean. Secondo me Mr. Bean? A tutti e due. A tutte e due? Proprio a Mr. Bean. Proprietà transitiva si chiama. Se A assomiglia a B e B assomiglia a C, sì, A assomiglia a C. Mourinho non assomiglia a Mr. Bean, però. Andrea Stramaccioni con Sky. Insieme a lui. Ci dici, in questi pochi giorni in cui hai lavorato con la squadra, quello che hai visto oggi in campo, qual è la cosa più importante, la cosa che ti ha fatto più piacere della prestazione dell'Inter? La cosa più importante è stata, secondo me, vedere in campo un'Inter propositiva, soprattutto nel primo tempo, dove la partita, diciamo, aveva un andamento più lineare, più in cui siamo riusciti, diciamo, a mettere la partita sui binari della qualità, e far esprimere quelle che poi sono le caratteristiche dei miei ragazzi, che non le scopro sicuramente io e su cui sicuramente non ho inciso io. Però il primo tempo mi è piaciuto, peccato l'episodio del gol all'ultimo minuto del primo tempo, che è poi quello su cui il Genoa ha basato la sua capacità poi di rientrare in partita. Si poteva pensare, insomma, a un rilancio magari di alcuni giocatori, magari puntare sui giovani, però oggi c'è stato un rilancio vero dell'Inter, ma credo anche di elementi che erano un po' rimasti ai margini di questa squadra. Penso a Forlan, penso anche alla prestazione di Zárate, che mancava da un po', anche con personalità. Hai fatto anche lo psicologo in questi giorni? No, io non ho fatto niente, io ho solamente messo in campo quello che sapevo fare io, cioè lavorare sul campo con quel poco che ho, l'ho messo a disposizione dell'Inter da martedì fino a oggi, e poi penso che sia stata una vittoria del gruppo, perché insomma hanno dato il loro contributo a giocatori importanti, da Giulio che ha fatto di tutto per esserci, a Christian che ha giocato a sinistra, a Deki che ha fatto per un tempo e mezzo il nostro playmaker, a Cambiasso, Diego, Zárate, Forlan, e chi è entrato, anche Guarin, Ob. Secondo me è una vittoria di tutti, della vecchia guardia, della vittoria, li ha citati tutti per nome, neanche per cognome. Allora, c'è chi mi dice: maledetto, ma se i gol non visti sono sempre della stessa squadra, i dubbi ti vengono, sei vergognoso, antimilanista, penoso, Luca da Riccione. Ma Calciopoli è finito o no? Perché questo è l'altro grande tema, i detriti di Calciopoli, insopportabile, se ti devo dire la verità. Paolo Ghisoni da Sky, ciao Paolo. Buon pomeriggio. Assomiglia di più a Mr. Bino o a Mourinho, Stramaccioni? Esteticamente a Ettore Bassi, e tagliamo la testa al toro. E calcisticamente, per te che lo conosci molto bene? Io non lo conosco molto bene, nel senso che è arrivato quest'anno a Milano dalla primavera alla primavera dall'Inter, dagli allievi nazionali. Io vado un po' controcorrente, lo sto facendo qui a Sky, e onestamente ho trovato anche terreno fertile con Mario Sconcerti, insomma, molto incensato, molto portato in palmo di mano dalla società, però insomma oggi la prestazione la si giudica in due situazioni, i numeri che dicono che l'Inter ha vinto 25-4 e che ricorda un po' da vicino il 4-4 visto con il Palermo quando c'era Ranieri sulla panchina. Segnalo solo che il Genoa è la peggior difesa del campionato con 56 gol subiti, quindi un piccolo dato ci poteva essere come chiave di lettura. Qualcosina, ma veramente schemi, ad esempio uno sul calcio d'angolo si è visto con Lucio e Samuel chiamati prima ad andare a saltare di testa e poi a uscire svuotando l'area per l'inserimento di Chivo e provare questa giocata al volo, ci può essere stato, però da qui a così a tutta questa campagna mediatica molto molto favorevole e bruciamo tutto quello che è stato fatto precedentemente da Ranieri, secondo me ne passa di acqua. Insomma. Sono d'accordo. Stramaccioni, ricordiamo, allenava gli allievi nazionali della Roma, anche perché alla Roma chi allena la primavera è solo De Rossi, giusto? Sì. Sì, che tra l'altro, voglio dire, Alberto De Rossi, una squadra che con Stramaccioni ha vinto il titolo allievi nazionali, l'anno successivo, sotto età, Alberto De Rossi ha vinto il campionato italiano in primavera. Mi sembra che a Roma lavorino molto, ma molto bene dal punto di vista del settore giovanile. Gli allenatori certo ci possono mettere del loro, ma stiamo parlando di due allenatori dal punto di vista sempre del settore giovanile ottimi, cioè i risultati che ha ottenuto Stramaccioni sia con i giovanissimi che con gli allievi nazionali sono di da vedere, così come quelli che ha ottenuto Alberto De Rossi vincendo un campionato primavera proprio la scorsa estate, quest'anno, adesso proprio un paio di settimane fa la Coppa Italia all'Olimpico contro la Juventus, che è una signora squadra. Io credo che la bravura della società Roma nel reclutare e portare avanti i giocatori sia indiscutibile, dopodiché ci mettono sicuramente del loro gli allenatori, certo. Ma da qui a far passare un allenatore che comunque ha vinto quello che ha vinto, che è una Next Gen Cup, sentivo anche lì dire Champions dei giovani, come diremmo a Milano piano un moment, torneo ad inviti sì, con l'Inter invitata. Probabilmente perché il dottor Paolillo c'entra molto nel portare avanti questa bellissima iniziativa a livello europeo, assolutamente gratificante, chi la vince ha sempre ragione, però anche lì mi sembra che una forma di rispetto si debba alla Roma, perché la Champions dei giovani, visto che il campionato primavera l'ha vinto la Roma, forse la doveva fare la Roma, certo. Cioè, a rigor di logica, a rigor di logica, sì, che vanno fatti, insomma, perché adesso noi siamo molto bravi, corretto. Italiani a portare avanti il nuovo che avanza, dimenticarsi un po' tutto, anche i problemi che ci sono stati con Ranieri, con Leonardo, insomma, la difesa dell'Inter oggi ha preso dei gol che non mi sembrano molto distanti. Moratti, sentiamolo insieme con Sky. Poi indirizzata a una persona che stava dimostrando di far bene, non è stata certo la vittoria in ambito europeo, ma era il tragitto che aveva avuto, che era stato molto buono con noi, ecco, qualche cosa di nuovo, un po' più a rischio e che quindi responsabilizza anche di più giocatori e società. Non è un traghettatore, quindi potrebbe benissimo essere l'allenatore dell'Inter dell'anno prossimo. Se questo fa bene mi risolve un sacco di problemi. L'ultima cosa, le voci, le indiscrezioni su Bielsa sono tutte illazioni? Le ho già risposto adesso, grazie. Sentito Andrea? Ho sentito. Paolo, una domanda veloce. Vista da questa prospettiva diversa, cioè non incensare il giovane Stramaccioni, ma quanto rischia, visto che adesso pare sia diventato il salvatore di tutto? Quanto Davis mangia al Palermo? Fermo restando che Davis mangia un'esperienza a livello, come dire, Gavetta l'ha fatta nei campionati di seconda, prima divisione, un allenatore che comunque quando è arrivato a Palermo è stato accolto con la stessa intensità, e certo qui la cassa di risonanza è superiore perché stiamo parlando dell'Inter. Rischia, secondo me rischia relativamente, perché lo ha detto Moratti, cioè la volontà è quella di mettere i giocatori davanti alle proprie responsabilità. Probabilmente serviva uno anche a livello motivazionale e da spendere dopo quello che hanno vinto appunto a livello internazionale, una vetrina sicuramente interessante. Io avevo voci che se l'Inter avesse vinto il trofeo Viareggio probabilmente questo avvicendamento sarebbe potuto avvenire anche precedentemente, quindi probabilmente serviva anche un nome importante da mettere, perché l'alternativa interna poteva essere Figo, che non ha nessuna esperienza in panchina, ma potevano essere anche in maniera forse con un minimo, un briciolo di rispetto, visto quello che stanno facendo da anni a questa parte, la coppia Baresi-Bernazzani. Sicuro. Paolo, io ti giro una considerazione maliziosa che ho fatto invece, e cioè arriva Andrea Stramaccioni e tutta la vecchia guardia scende in campo, da Cambiasso a Stankovic, Lucio, Samuel, Kibu. Ti ricorda qualcosa del Chelsea? No. Così? No, figurati. No? Ma certo, ma certamente, Roberto Di Matteo che arriva e giocano i senatori, ma normale che sia così. Però questo va contro l'idea di mettere i giocatori davanti alle loro responsabilità, anzi forse ciò che Ranieri stava facendo era proprio quello di identificare alcuni responsabili, e Moratti ha cambiato strada. Beh, sì Andrea, un certo punto di vista è così, da un altro punto di vista è però mettiamo i giocatori che in questo momento hanno fatto la storia dell'Inter, che probabilmente l'anno prossimo possono essere in dubbio, davanti alla responsabilità se andare avanti o no. È inutile che ci giriamo intorno, i nomi sono sempre i soliti, quindi dal punto di vista personale mi aspetto nelle prossime 8 partite di vedere anche qualcosina di buono anche da parte della linea verde dell'Inter, ma stiamo parlando di giocatori attuali in rosa, non assolutamente quelli della primavera, che ho sentito anche dire adesso si va a pescare nella primavera campione d'Europa. Ragazzi, parliamoci chiaro, nella primavera campione d'Europa non c'è un giocatore se non Lorenzo Krizetic, guarda caso prestato a gennaio al Parma in prospettiva anno prossimo. Cioè bisogna anche non dare troppe illusioni al popolo interista, che in questo momento è deluso, si aggrappa a questa situazione e pensa di aver trovato gli eredi di Schneider, dei vari giocatori che fanno la differenza. Certo. La mossa è stata proprio fatta perché adesso vediamo, siamo arrivati in una situazione diciamo a fine ciclo, vediamo chi possiamo salvare in questa circostanza e poi alla fine della stagione traeremo delle somme, credo anche delle valutazioni sia su Stramaccioni, ma dal mio punto di vista veramente le deve vincere tutte, come ha detto Moratti, perché in quella situazione arrivi a essere veramente il nuovo Vate, come molti lo hanno già descritto. Altrimenti io non lo so, scherzosamente venerdì sera con Stefano De Grandi, se domani si gioca, ho detto che il nuovo allenatore dell'Inter probabilmente ce lo racconterà Mourinho chi è, ovvero autoproponendosi sai già chi fa lo sgambetto, il dispetto, perché ultimamente sta bisticciando con Villas-Boas dopo che Villas-Boas ha detto che il gioco del Barcellona è fantastico, e allora lui va a Londra a prendere la casa quando Villas-Boas è in bilico. Villas-Boas si dice che viene a Milano, no, torno io. Boh, non lo so, maliziosi molte volte. Ci si becca. No, anche dalle vostre parti. Anche dalle nostre parti, caro Paolo, grazie. Ma da voi di più. Da voi di più. Tu sei di casa nostra, quindi non fare dopo il furbo. Parlavo della pallavolo, non dei giornali. In questo caso. Ho trovato la mia difesa. Grazie Paolo, alla prossima. Buona giornata. Grazie a Paolo Ghisoni. Torniamo sempre con Andrea Zorzi, con ascoltatori 800 24 00 24, una grandinata di messaggi di vario genere, anche di vario gusto. Allora, la partita è falsata anche per il Catania, visto il gol regolare annullato, ma smettiamola con queste stupidaggini, Maurizio. Ma stiamo parlando di sport e gli errori vanno accettati. Sul gol non gol, gli esperimenti fatti dalla FIFA con i sensori non hanno dato esiti sperati, scrive Max. Sì Max, però io mi rifiuto di pensare che oggi non sia possibile con la tecnologia risolvere questo problema in maniera certa. Secondo i nostri altri ascoltatori che scrivono invece su Facebook e Twitter, è un pesce d'aprile, oppure lo spazio che si vede nella foto tra linea di porta e palla e virtuale scomparirebbe con la telecamera messa sulla stessa linea. Altro ascoltatore, comunque, per togliersi ogni dubbio basta far analizzare da un grafico professionista questa foto, senza nemmeno guardarla al PC, vi dirà che è un falso. Ivan da Ferrara. Io sono un milanista di vecchia data e penso che il campionato quest'anno sia falsato esattamente come tutti gli altri. Bravo. Perché non è capitato niente di straordinario. Oltretutto penso anche che Galliani e Allegri, io ho assistito in diretta a quando Allegri 2 settimane fa ha detto che alla fine tutto si compensa, e di conseguenza avrei gradito anche in questa occasione, come dire, che il ragionamento fosse lo stesso, perché altrimenti diventa abbastanza strano. Invece è stato Ivan, stia lì perché sta andando benissimo. Invece Allegri ieri ha detto questo. Ma è stata sicuramente una bella partita, sapevamo che trovavamo delle difficoltà contro il Catania. Abbiamo avuto 10 minuti di blackout all'inizio del secondo tempo, abbiamo preso questo suo angolo, poi abbiamo ripreso a giocare, abbiamo avuto diverse soluzioni buone per far gol e non ci siamo riusciti, e dispiace aver lasciato 2 punti per strada. Ma non è questione di dire se fuorigiochi c'erano o non c'erano, che non c'erano, come il gol che la palla aveva superato la linea. Il fatto è che credo da stamani siano stati tirati in ballo di nuovo gli arbitri, non da noi, E se questa, se questa è, se questo è il modo per dar serenità agli arbitri, lo faremo anche noi. Perché il Catania sicuramente ha giocato in modo diverso e ha giocato molto meglio oggi. Noi purtroppo veniamo da una partita ogni 3 giorni e soprattutto affrontare il Catania stasera non era facile. I ragazzi hanno fatto una buona prova. Dispiace aver buttato 3-4 situazioni favorevoli alla fine, e alla fine ci è andato anche bene perché Antonini ha salvato sull'Anzafame una situazione importante a 5 secondi alla fine. Strilla tu che strillo anch'io, insomma, Ivan. No, io mi sarei risparmiato una parte di quello che ha detto dicendo soltanto che giocando ogni 3 giorni può capitare anche, eccetera. Però voglio anche dire, mi sarebbe facile dire che è la risposta allo stucchevole comportamento di Marotta, di Agnelli da inizio anno, di Conte, però anche così il gioco non vale, perché il problema è, da una parte c'è chi gioca, io non mi interessa nemmeno quello che prendono, perché poi alla fine anche questo non è una novità, dall'altra c'è chi segue il calcio con passione, è una delle poche cose, insomma, che unisce e divide un po' allo stesso modo, sì, a prescindere dalle classi, dallo stato sociale. Però almeno questi personaggi dovrebbero quantomeno in questa fase, oltretutto una fase dove si parla di partite truccate, di sì, in questa fase che è, particolarmente concitata, dovrebbero risparmiarsi queste uscite, non strilla tu che strillo io, ma un po' tutti zitti. Sì, anche perché mi sembra... poi alla fine, come dire, uno guarda la partita. Sì, guarda, se legge la partita. No, ma Ivan, se legge la partita, ieri sera è stata una bella partita tra Milan e Catania. Secondo me l'1-1 non fa un plissé. Se poi la vogliamo, come al solito, sbriciolare e polverizzare in 100.000 episodi e fotogrammi, tarocchi o meno, allora è un'altra storia, Andrea. Per la verità sembrava, infatti, che Allegri avesse quasi dovuto, suo malgrado, fare un riferimento agli arbitri, perché quei 6 punti di vantaggio era abbastanza tranquillo. Mi posso anche permettere di stare zitto e non cadere in provocazioni, ma siccome adesso c'era possibile riavvicinamento della Juve, evidentemente anche loro temono che parlare possa in qualche modo influenzare gli arbitri. Io non credo sia così, ma evidentemente no, io non credo. Io credo di sì. Allora, allora fanno bene a lamentarsi. Cioè, se alla fine la vittoria viene anche attraverso delle dichiarazioni, attraverso continuamente Certamente un modo per mettere maggiore pressione sugli arbitri. Basta semplicemente sapere che i campionati si vincono giocando bene a calcio, lamentandosi in modo corretto, facendo pesare il proprio potere, e abbiamo un campionato che non è falsato, è semplicemente un campionato isterico, che è il risultato di tanti fattori, tra i quali c'è anche il gioco in campo. Certo. Stefano da Modena. Sì, buonasera. Buonasera. Anch'io un milanista da sempre. E niente, ascoltavo adesso quello che diceva Andrea Zorzi e mi ha dato la conferma proprio di un'illustrazione completamente diversa che c'è tra uno sport come la pallavolo e il calcio. Nella pallavolo abbiamo dei personaggi, giusto come Andrea, come Cantagalli, come Lucchetta, che tu li vedi in campo protestare, perché ovviamente viene istintivo farlo quando c'è la palla da discutere o quant'altro, però appena l'arbitro alzava un attimo la voce finiva tutto lì e si ripartiva. Ed è proprio una cultura completamente diversa. Purtroppo io non posso dargli ragione adesso, perché penso che ovviamente le pressioni che vengono fatte vengono anche per forza di cose avvertite dagli arbitri, dall'ambiente e quant'altro. Sì. Ieri sera Allegri ha sbagliato, perché non serve a niente adesso, insomma non porti niente di nuovo, gli do una sola attenuante. Sì, sì, se il Milan ieri sera avesse vinto, il campionato era finito e lui poteva cominciare a pensare. No, ma certamente è una partita molto importante. Campionato finito magari ancora no, però è una partita certamente importante. Va detto, Andrea, che arbitrare comunque una partita di pallavolo è cosa più semplice. Ma no, infatti questo dopo ne parliamo un po'. Non si possono fare paragoni interdisciplinari, nel senso che chissà come sarebbero i pallavolisti se fossero esposti alle pressioni tipi del calcio. Quindi su questo ne parliamo dopo, per evitare paragoni un po' complicati. Però Stefano dice, per esempio, che Allegri ha sbagliato a chiamare in causa gli arbitri, forse nella convinzione che questo non possa essere un vantaggio per avere qualche aiuto in più. Tu la pensi in modo un po' diverso. Forse su questo vale la pena ragionarsi un pochettino. Io tendo a pensare che alla fine si vincono e si perdono i campionati più che altro chiudendosi mai all'interno e giocando nel modo migliore possibile. Evidentemente le pressioni nel mondo del calcio sono così forti che le distrazioni o le influenze esterne sono notevolissime e va preso in considerazione. Allora chiediamo un parere illustre. Paolo Condò, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Paolo. Buongiorno, buona domenica a tutti da Barcellona. Da Barcellona, qui invece dal campionato più isterico del mondo. cui appartieni anche tu. Sottolineo la mia situazione geografica, perché effettivamente me la passo meglio da questo punto di vista. Io e Andrea Zorzi stavamo discutendo sul fatto, ma questi strilli e strepiti contano o non contano, influenzano o non influenzano gli arbitri, mettono o non mettono pressione? La pressione naturalmente la mettono, però per esempio errori abissali come il gol non visto di Muntari, mi rifiuto di credere che sia dovuto alla pressione sul guardaline in questo caso. Io penso che arbitri e guardaline di scarsa personalità possano avere la pressione nel momento in cui si trovano loro in dubbio e dicono dare o non dare, magari la pressione della protesta recente può portarli a muoversi in quel senso. Però l'errore più grande di questo campionato, quello che la potrebbe indirizzare, perché tutto sarebbe finito se quel gol di Muntari fosse stato concesso, e come più grande secondo me non è dovuto, secondo me è stata semplicemente una abissale castroneria del guardaline, sì, come possono succedere. Sì, certamente. Sei a Barcellona ad anticipare il Milan nel viaggio della speranza, il Milan che si porta in valigia anche queste polemiche, non so se e quanto peseranno, dato che in campo internazionale le diamo e le prendiamo senza aprire bocca, no? Sì, anche perché in campo internazionale le teorie del complotto che esistono in Italia e delle quali siamo tutti, sto scherzando ovviamente, anzi sto facendo il sarcastico, delle quali siamo tutti convinti dell'esistenza di complotti demo Pluto giudaici per far sì che la nostra squadra non riesca a vincere il campionato, in Europa almeno fino a questo momento, a parte qualche uscita di Mourinho, la famosa sequela dei porché della scorsa stagione, ecco, in Europa ancora non sono arrivati, e quindi si gioca più sereni sapendo che ci può essere l'errore arbitrale, ma non è dovuto a un pregiudizio o peggio a un tentativo scientifico di condizionare la partita. Non c'è un moggio, insomma, Andrea. No, ma infatti è irresistibile, evidentemente per noi italiani è irresistibile l'idea di avere una causa esterna a noi che non ci crea responsabilità ma ci dà anche la possibilità di scaricare la colpa sugli altri. È irresistibile, ed è però molto più bello giocare in contesti nei quali sai che l'errore fa parte dell'arbitraggio come di chi gioca, e non è però una questione così importante, così principale. Quindi tutte quelle energie collegate alla gestione dell'ambiente circostante, delle pressioni, viene a cadere e si gioca un po' più a calcio, si gioca più a pallavolo che è. Sì, diventa qualcosa di normale. Non sarà normale, Paolo Condò, la partita che vedremo martedì. Tu hai visto il Barcellona, ne hai scritto oggi sulla Gazzetta ieri sera, che impressione ti ha fatto? Impressione molto buona, molta migliore di quella che mi aveva fatto a San Siro mercoledì scorso. Barcellona sta bene, ieri aveva una partita molto complicata perché giocava contro l'Athletic Bilbao, che è una squadra in grandissima forma ed è forse l'unica squadra al mondo che almeno programmaticamente voleva venire ad attaccare il Barcellona, a mettere a ferro e a fuoco la sua area di rigore, cosa che l'Athletic Bilbao però non è stato capace di fare per la strepitosa partita di possesso possesso palla fatta ieri dal Barcellona. È stata molto bella, comunque è stata molto intensa, una gara che il Barcellona ha fatto suo, ha vinto 2-0, ha faticato un po' per andare in gol perché l'Athletic Bilbao, se non altro, capace di rovesciare il gioco, però si è difeso con grandissima bravura, con grandissima forza. È una squadra che sta bene, il Barcellona, che come ogni anno è stata programmata per arrivare al massimo della forma a primavera, quando ci sono le partite decisive a Champions League. Probabilmente per questo ha perso il campionato, perché ha perso troppi punti a gennaio, a febbraio, in mezzo ai quali evidentemente stava facendo carico per lavorare poi sulla brillantezza adesso, però in Champions League, detto che io naturalmente spero che il Milan faccia il colpaccio e gli do delle più che discrete possibilità di farcela, perché lo 0-0 dell'andata è stato comunque un buon risultato in ottica doppio confronto, il Barcellona non nascondiamoci che resta il favorito per la Champions League. Grazie Paolo, buon lavoro. Buona giornata a tutti voi. Grazie. Ciao. Grazie a proposito Paolo, di Barcellona di possesso, sempre Paolo Lillo mi raccontava a Catania che quando un paio d'anni fa hanno giocato a Barcellona ha dovuto litigare un po' con i dirigenti perché pare che a Barcellona siano abituati a bagnare il campo dopo il riscaldamento, quindi a pochi minuti, quando il regolamento prevede che al massimo lo puoi fare un'ora prima. Gli ho chiesto anche scusa, ma qual è il vantaggio del campo bagnato? Mi ha detto, io non lo sapevo, che la palla va più veloce, quindi una squadra così dotata nel controllo di palla come il Barcellona può trarre giovamento anche da questo fondo scivoloso che aumenta la velocità della palla. I forbetti. E così pare, ha detto, perché io ho chiamato il responsabile della federazione, l'ho preso per un braccio, l'ho portato, ma intanto che abbiamo trovato il responsabile dell'irrigazione, il campo era bagnato. Intanto che abbiamo scoperto, che ho trovato i rubinetti, il campo era bagnato. Dunque, io prima del traffico vi do una notizia molto triste, perché Giorgio Chinaglia è morto oggi in Florida. Bandiera della Lazio, 98 gol tra il 69 e il 76, una vita complicata, anche piena di guai, se vogliamo, soprattutto in questa parte finale. È morto oggi in Florida Chinaglia. E per non farci mancare niente, un tifoso del Napoli è stato lievemente ferito da una coltellata dopo uno scontro con un gruppo di tifosi milanisti all'autogrill di Cantagallo sulla 1 nei pressi di Bologna. Verso le 14 si sono incontrati due pullman di milanisti di ritorno da Catania e uno di napoletani diretti a Torino per la sfida con la Juventus. Dopo il contatto, un tifoso del Napoli avrebbe preso una coltellata alla coscia, è stato medicato e subito dimesso all'ospedale maggiore di Bologna. Al momento non ci sono fermati. A proposito di strilli, strepiti e effetti che producono. Flavio, Reggio Emilia. Buonasera. Buonasera. Io, vabbè, mi dispiace la notizia di Chinaglia per primo. Sì. E io sono juventino e per la legge dei grandi numeri non me la voglio tirare, però temo che prima o poi arriverà quella cosa che non voglio neanche nominare, e stasera, dico la verità, ho un po' di paura. Non so se è una questione di pre-partita classica o se temo invece anche razionalmente una squadra che ci ha fatto soffrire all'andata e che ha tre attaccanti. Dunque, aspetti, per far capire un po' tutti, lei teme una sconfitta stasera col Napoli? Esatto. Ah. Ma anche per motivi oltre che di numeri, perché prima o poi per la legge dei grandi numeri si dice che una la perderà, spero mai, ma soprattutto per una questione anche di logica calcistica, nel senso che comunque se la Juve perde, può perdere di fronte a una squadra che l'ha già fatta soffrire all'andata, che ha tre attaccanti che corrono come dei pazzi. E poi volevo dire una cosa che non c'entra con questa storia di stasera, sulla storia del Milan, dei complotti eccetera. Vabbè, noi ci marciamo alla grande in Italia, come è già stato detto. Il concetto dell'arbitro, chiamiamolo pagato. Ora, se l'arbitro famoso a Milan e Juventus della palla che è entrata di mezzo metro, se fosse stato pagato l'arbitro, non avrebbe annullato il gol a Matri. Ma non c'è nessuno che paga nessuno, io credo che non ci sia nessuno che paga nessuno, anche se c'è chi scrive alla Juve mancano 5 o 6 rigori, e Marco da Treviso, eccetera, eccetera. Non è questione di pagato o non pagato. Io paradossalmente, e chiedo conforto anche ad Andrea Zorzi, se un arbitro fosse in malafede non andrebbe ad incidere su un episodio colossale come è stato quel gol di Muntari. Lo fa in altre circostanze, in altre maniere, volendo per forza fare gli avvocati del diavolo. Insomma, non so dirti che cosa potrebbe fare nel calcio, probabilmente caricare, cioè fischiare molti falli, avere un trattamento. Nel basket sono certo, se inizia a caricare di falli un giocatore importante lo cacci fuori o lo limiti in breve tempo e riesci a farlo senza essere accusato. Nella pallavolo dovresti aspettare i momenti decisivi, cioè su una palla difficile, molto importante, oppure alcune decisioni dubbie le carichi sempre da una parte, però questo diventerebbe una tendenza che in quanto tale è riconoscibile. Il calcio è, secondo me, paradossalmente un po' più complicato quasi, perché l'evento, quello lì, del gol o dell'offside sono così immediati poi che è difficile avere la prontezza per reagire. Però io sono veramente un po' estraneo all'ipotesi che ci possa essere un arbitro che è così lucido, così sveglio, così bravo da poter mettere insieme tutto in un chiaro secondo. Ma poi siamo tutti d'accordo sul fatto che sia in assoluto lo sport più difficile da arbitrare nella sua naturalezza, no? Nella io quando sua vado a spontaneità. Vedere quelle poche partite di calcio mi capita di distrarmi per un attimo e mi perdo sempre il gol, perché rispetto ad altri sport che hanno più continuità di gesti, lì c'è una cosa che arriva a volte improvvisamente e decide la partita. È persa quella. Certo. Dov'è il replay? Guardi a casa. Caro mio. Angelo da Gela, scendiamo in Sicilia. Buonasera. Buonasera. Dica. Allora, una domanda non tanto strana. Allegri da qualche mese è abbastanza nervoso, diciamo da metà gennaio. Guarda caso, da quando il suo presidente non si occupa più di politica direttamente. Non può essere che questi timori provengano da un fatto che se non vince lo scudetto rischia la panchina? Ma intanto non è una domanda che è fantascienza? No, intanto ha firmato il contratto, dunque un contratto ce l'ha, un posto di lavoro ce l'ha, se lo vogliono mandare via lo pagano. Quanto alle le influenze presidenziali e ai fastidi che queste possono provocare, boh. Oggi Gene ha detto peccato, Allegri si era abituato a fare la formazione e adesso gli tocca ricominciare a ricevere il fogliettino dal presidente invece. No, ma poi insomma sappiamo bene quale sia l'influenza di Silvio Berlusconi, quale sia il suo attaccamento al Milan. Ma guarda, secondo me il nervosismo di Allegri è in qualche modo proporzionale all'intensità del campionato che si avvicina alla fine, agli impegni e quant'altro, e poi con questa idea, come si diceva prima, che ciò che avviene in campo è un pezzo dell'intera gestione. Quindi immagino quando lui va in conferenza stampa, ieri io avevo letto lui è scappato dal campo appena finita la partita, perché evidentemente voleva rimettere a posto un po' i pensieri, e rimettere i pensieri a posto significa adesso vado in conferenza stampa, cosa è meglio dire, cosa devo dire secondo alcune strategie che sono in grado di individuare. No, ma poi mi sembra che i risultati lo rendano tranquillo. Primo in classifica con un buon margine sulla Juventus, è ancora fino a martedì notte in lizza in Champions League dopo uno splendido risultato con il Barcellona, dunque mi sembra in una posizione in questo momento di discreta forza. Poi al Milan, sul Milan si dicono tante cose ufficiose, no? Ad esempio come il fatto che non ci siano esattamente splendidi rapporti tra Galliani e la signorina Berlusconi, o signora Berlusconi, Barbara. Perché? Per varie ragioni e motivi. Ma sono tutte cose ufficiose che restano lì. Non so neanche quanto c'entri il papero genero amico di Nosotti, no? Bisogna chiamarlo ancora Nosotti, bisogna chiamarlo. Quella volta ci ha deliziato col papero genero. Sì. E ci è piaciuto abbastanza. L'ultimo evento era legato, ormai vecchio, roba vecchia di Tevez. Teniamo patto. Ma sai, quello è stato. Insomma, io credo che in quella situazione oggettivamente Galliani abbia fatto una brutta figura. Cioè, era lì con poteri di firma di delega pronto a firmare. E gli hanno detto: no, aspetta, vieni a casa perché non se ne fa niente. Lui, poveretto, si era fatto un mazzo così per andare a prendere Tevez costruendo una piramide improbabile di soluzioni creative e fantasiose, si era già fatto l'affare, gli hanno detto no, fermo, vieni a casa, fai finta di niente. Io credo che ovviamente non... Qualcosa rimane. Senti Andrea, tornando invece al discorso, poi torniamo a parlarne, al discorso di Catania, hai parlato con Montella? Sì, ci siamo salutati. Ma anche visto fare un po' di tiri a fine allenamento, si era messo lì, un po' affaticato, però insomma è uno che... Tu sai che è l'idolo assoluto della nostra regista di oggi, Valeria Bernardi. Non lo sapevo. Non romanista lo sapevo. E grande fan di Montella. Alla palla gli dà ancora del tu. Vabbè, ci mancherebbe altro. E c'hanno un campo d'allenamento che sullo sfondo c'ha l'Etna innevato. Meraviglioso. Ti lasci immaginare, non è per nulla male. Bellissima struttura, sotto hanno 13 spogliatoi, sale pesi gigantesche, veramente un impianto molto molto bello. C'era anche le grottaglie, che è stato da molti definito il primo vero passaggio per rendere il Catania una squadra più solida, più concreta. Ma le grottaglie? Sì. Sei sicuro? Ah, così hanno detto. Proprio hanno detto lui. Che la mentalità del Catania ha iniziato a cambiare con l'arrivo di Le Grottaglie. Sì. Pensate un po'. 800 24 00 24 numero verde. Adesso ci fermiamo per il GR, ma subito dopo torniamo. Io leggo anche un sacco di messaggi. Inutili polemiche, il pallone non è entrato, nessuno ha notato che c'è l'ombra del pallone che fa sì che uno crede che sia entrato. Ragazzi, io non so cosa dirvi, l'ho visto molte volte al replay, non so ancora adesso se è entrato o no, non so se la foto che compare sul sito del Milan è taroccata o no, ma sinceramente posso dirvi anche la verità, me ne importa pochino, mi interessa un po' di più un atteggiamento un po' più responsabile dei questionanti, degli strillanti in contesa in questi mesi. 800 24 00 24, vi aspettiamo qui dopo il GR. Torniamo insieme, 800 24 00 24. Andrea Zorzi, oggi con Zorro trasmissione fantastica, bravi, scrive il tuo amico Andrea da Padova. Mio c'è, amico. C'è chi ti vorrebbe più spesso anche la domenica prossima, giorno di Pasqua, saremo insieme per una puntata speciale in cui parleremo di tutto fuorché di calcio. Io mi sento un po' un pesce fuor d'acqua nel calcio, mi sforzo un po' di restarci dentro, però... Dai, però di la verità è divertente. Ah, su questo non c'è questa, la radio, questa guarda che la radio. Battaglia verbale. L'altro giorno stavo andando a Padova. Sì. Non ecco dove, da Andrea. Non si dovrebbe dire, però c'è una radio a Padova che si chiama Radio Gamma 5. Sì. È piccolina, si parla solo in Veneto. E 9 volte su 10 il microfono rimane aperto e si sente mentre il DJ, che naturalmente non è un professionista, sta chiacchierando con gli amici per telefono. Sì. E adesso ascoltiamo questa musica e ciò, e non parte il CD ed è veramente straordinario, perché solo la radio ha questa varietà di sistemi assolutamente super sofisticati. Sì. E poi c'è anche la radio, quella di quartiere, che continua ad andare. Solo che la radio riesce a essere uno straordinario happening. È di tutto e di tutti, anche di Paolo da Milano, Massimo da Como e di tutti quelli che chiameranno naturalmente. 800 24 00 24. Paolo? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Senta, io sono anch'io un abbonato, io sono abbonato al Milan, quindi ho un cuore che ha proprio le strisce, sì, le strisce rosse e le strisce nere. Ho dato il primo bacio a mia moglie di lunedì e l'ho portata allo stadio di mercoledì. Senta, io volevo dire che però io credo... Che campione, non mi dica allora, dopo questa meravigliosa premessa, non faccia Galliani e non mi dica no, che il campionato è falsato. No, quello che volevo dire è questo. Io continuo ad andare allo stadio da 30 anni perché credo alla buona fede del calcio e degli arbitri. Perché se no non ci andrei più. Siccome ancora vado allo stadio e mi emoziono quando vedo San Siro, quando vedo questo stadio bellissimo, e credo alla buona fede del calcio, perché sennò avrei smesso di andare 30 anni fa. Volevo dire che faccio fatica a capire l'errore di Milan-Juve, è difficile pensare, cioè ci credo, dico madonna che errore enorme che ha fatto questo signore, questo guardialine, dico pazienza. Quello di ieri, senta, io l'ho visto 7 volte alla televisione e alla 7ª volta mi sono detto non era gol, non è entrata. Sì. Quindi non si può adesso fare, sinceramente lo dico da milanista, da tifoso, dico non facciamo i processi su una cosa che vista non allo stadio, ma vista 7 volte alla televisione non sembrava gol, perché la palla non sembrava entrata tutta. Però così, quindi Paolo... non viviamo sempre sulle immagini, diciamo che ieri la partita, il risultato è stato un risultato giusto. Certo. Perché il risultato giusto era un pari. Certo. È andata così, è vero che poteva essere gol, però il calcio è questo, come avete detto voi, è uno sport meraviglioso ma imperfetto. Paolo così mi ha aperto una porta in un universo nuovo, non pensavo ci potesse essere un tifoso che da 30 anni segue il calcio ed è così abbastanza rilassato nell'essere tifoso, nell'accettare. Ma perché il calcio per me il 90esimo è finito, si fischia alla fine. Sì, però... guardiamo il gesto tecnico delle volte, però, guardiamo Milan-Barcellona, guardiamo i gesti tecnici dei giocatori. Però permettimi, sei tu un po' una mosca bianca, nel senso... lo so, ma... guarda che tu sei uno strano, ma forse perché ho giocato a pallone, forse perché ho giocato a calcio. Sei vado dunque... allo stadio e vedo Seedorf che fa un numero e mi emoziono, capisci? È questo il calcio. Cosa... per me è soprattutto questo, è gioia. Cosa... certo, cosa vuoi che ti dica? Paolo migliore in campo nella puntata di oggi, Andrea Zorzi compreso, però quello strano è Paolo. Vabbè. No, ma è vero, ma ce ne sono tanti. Ma tua moglie lo sa che 48 ore dopo il primo bacio l'hai portata a San Siro? Sì, c'era sì, anche lei, sì, no? Sì, beh, poi un'altra volta ti racconterò cosa è successo, mi siamo persi anche nel parcheggio. Incredibile. Forse venga l'amore, cosa devo farci? Per il Milan, no? Per il Milan. Ho parcheggiato la macchina in un posto vicino all'ippodromo, sono uscito, non mi ricordavo più dov'era, sono tornato a casa 2 ore dopo perché l'ho ritrovata per caso, perché non c'era più nessuno, eravamo solo io e lei. Pensa un po' che notte, era un Milan Bayern, se ricordo bene. Milan Bayern, non trovavi più la macchina. Beh, e poi l'hai sposata. Lei, ma come si chiama lei innanzitutto? Susanna. E anche lei è molto tifosa del Milan? No, vabbè, però l'altra sera è venuta a Milan Barcellona ed era contenta, si è divertita perché ha visto uno ha visto San Siro bello come sempre. Paolo, grazie. Comunque torno a trovarci, gioia, quando... ricordarsi di questo. Ci proviamo, sentiamo se la pensa così anche Massimo da Como. Buonasera, piacere sentirvi come sempre. Io la penso in un altro modo. Strano. sì. No, ma rispetto ad un altro discorso, nel senso che allora, se il calcio fosse quello di una volta, probabilmente non ci sarebbe bisogno di una moviola piuttosto che di sensori o di 18 occhi che guardano quello che succede. Il calcio di oggi, che ha perso molto dal punto di vista dello spirito decubertiano, diciamo così, ha bisogno... Ma no, Massimo, lo spirito decubertiano non ce l'aveva neanche prima. Diciamo che il calcio è cambiato da un po', come tutto il resto della vita, è più veloce, più fisico, insomma, è uno sport diverso, ma soprattutto il calcio è cambiato perché abbiamo 1 miliardo di occhi che lo guardano, di occhi tecnologici che lo guardano, è cambiato soprattutto in quello e per quello. Ma io su questo avrei qualche remora, nel senso che oggi, mi perdoni, il calcio è diventato molto uno sport televisivo. Appunto. È poco uno sport che viene al quale si assiste, diciamo, dallo stadio. Sì. Volevo fare questo tipo di considerazione. Non so, venerdì si giocano partite alle 17, sì, per esempio, di Serie B. Io mi chiedo come faccia un tifoso di venerdì a volersi spostare e andare a vedere una partita. Oggi il calcio ormai è puramente un prodotto televisivo, che se ne voglia dire. Sì. Io credo che si debba convenire su questo aspetto. Poi sul resto, per l'amor di Dio, d'accordo anche con lei. La mia domanda era un'altra ancora, però. Lo spettacolo che appunto ci viene offerto. Io ho visto Milan-Barcellona, come miliardi di occhi diceva lei, e ho trovato una squadra di un pianeta e una squadra di un altro pianeta. Poi la Gazzetta dello Sport o altri eminenti quotidiani danno il 7 ad Allegri piuttosto che la sufficienza alla squadra o delle possibilità di passare il turno, ma il Barcellona poteva fare, a mio avviso, 4 o 5 gol nel primo tempo. Sì, che il Barcellona... cosa, e poi concludo, sì, lo spettacolo a cui assistiamo oggi, aiutatemi a mettere a fuoco una squadra del campionato italiano che giochi un bel calcio. Io ve ne dico solo una che in questo momento è sulle gambe, ma non è di Serie A, sì, è di Serie B, ed è il Pescara. Siamo pronti. Guardi, Massimo, sono d'accordo relativamente, perché l'Udinese gioca un bel calcio, perché il Napoli gioca, a mio avviso, un bel calcio, perché la Juventus, secondo me, gioca un bel calcio. Se lei mi dice non abbiamo una squadra realmente competitiva in Europa, a meno di non raccontarci bugie, perché il Milan è nettamente più debole del Barcellona, poi l'altra sera la sua bravura è stata quella di tenere aperto il filo del discorso, su questo sono d'accordo. Penalizzare così in questa maniera, siamo più poveri certamente, ma penalizzare così quello che lei chiama il prodotto mi sembra eccessivo. I miliardi di occhi a cui io facevo riferimento, e forse c'è stato un fraintendimento, sono quelli delle telecamere. Il calcio è cambiato perché adesso non si nasconde più nulla, dal labiale alla palla che entra di 1 millimetro oppure no, alla moviola che ci viene in tempo reale continuamente riproposta. Rispondo al volo a 2 sms. Marina da Milano domanda: ma è vero, è morto Giorgio Chinaglia? Sì, purtroppo è vero, è accaduto oggi, ne abbiamo dato notizia prima noi e poi avete sentito anche nel GR. Caro Massimo, poi parliamo anche di Superbike, così impara a provocarci. Però adesso, insieme ad Andrea Zorzi, saluto e ringrazio Ivan Basso. Ciao Ivan. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Senti, sei anche tu indignato come altri milanisti, come Galliani, oppure no, da milanista? Guardate, io sono in ritiro al Teide, quindi sono un pochino fuori dalla realtà di quello che è. Ho solo seguito così da lontano un po' i risultati, perché siamo in una fase di preparazione. E quindi non ho seguito con grande attenzione nel dettaglio solo i risultati ho guardato, quindi non so cosa sia successo. Guarda, meglio così, di preciso. Lascia stare, quando torni te lo spiego. Senti, stagione cominciata in modo doloroso, come va adesso? In modo doloroso, esattamente. Va benino, nel senso che fortunatamente ho ripreso a pedalare, siamo lontanissimi dalla condizione che dovrei avere e che dovrò avere tra qualche settimana, per questo insomma sono in una fase di così di crescita. La cosa positiva è che non ho più dolore al ginocchio e che posso lavorare, però questo non significa che insomma nelle prossime settimane faremo un po' il punto della situazione e capiamo come procedere in vista del Giro d'Italia. Benvenuto anche da parte mia, qualche informazione proprio su cosa state facendo, cioè quanti chilometri, quante ore stai in sella, anche perché se non hai potuto vedere niente del Milan significa che dedichi molto tempo a lavorare. Ma si lavora sicuramente molto, anche alcune giornate anche con il doppio allenamento, quindi bicicletta normale al mattino e da cronometro al pomeriggio. Come ho detto, è una fase molto particolare per me, perché anche i primi giorni ho dovuto ancora così convivere con questo fastidio al ginocchio che non mi lasciava stare, quindi è un programma che cambia e che varia giorno per giorno. Oggi ho avuto insomma dei segnali positivi, sono molto contento, però questo non è sufficiente per poter correre il Giro d'Italia, bisogna che questi segnali continuino giorno dopo giorno, che i carichi di lavoro aumentano e che le mie sensazioni migliorano, altrimenti non sarei competitivo e quindi bisognerà un po' rivedere tutto. Senti, rispetto ad altri sport, qui lo stato di forma degli atleti qualche volta cambia anche repentinamente, un ciclista invece è un po' più legato al lavoro che si fa e alla quantità. Ma guardate, un ciclista diciamo che dopo la preparazione invernale, che è quella più importante, ci vogliono 4-6 settimane per portarsi ad una buona condizione. Io così ho avuto due infortuni uno dietro l'altro e questo ha frenato molto la mia primavera. Nel mese di marzo è stato veramente disastroso, pochi chilometri, tanti chilometri in macchina per andare a fare le terapie, le visite, risonanza magnetica e tutto questo, ma pochi chilometri in bicicletta, e questo alla fine poi abbiamo visto anche l'anno scorso, una preparazione affrettata per il tour dell'anno scorso poi ha dato insomma durante il tour un rendimento che altalenante, che non mi ha soddisfatto e che mi ha fatto ricorrere un tour al di sotto sicuramente delle mie possibilità. Io sono convinto che se porto il miglior basso alla partenza di un grande giro posso ancora lottare per vincere per qualche anno, quindi questo è l'obiettivo, cioè se io non mi sento il miglior basso è inutile che io corra. Ivan, realisticamente cosa sogni in questo momento per la tua stagione? Oggi, in questo momento? Ma in questo momento per me è già il sogno è già realizzato, cioè il fatto che non ho male al mio ginocchio e che questo ti libera anche la mente, quindi io domani mattina penso al mio allenamento e non a se mi fa male o non mi fa male il ginocchio. Quindi già questo per me è un grande passo avanti. Poi i sogni chiaramente sono sempre quelli, no? E non, bisogna vincere. Le corse che io posso vincere non sono moltissime, sono le grandi corse a tappe, e quindi quelli restano e resteranno per i prossimi anni. Sì, quest'anno in cerca di un re con Contador fermato. Ma ce ne sono tanti altri di forti. Contador sicuramente è l'atleta più forte, però c'è Cadel Evans che è l'atleta che ha vinto il tour, e ce ne sono tantissimi altri, quindi non è che ci sia Contador o non c'è, sicuramente fa una differenza, ma non ce ne sono tanti altri, quindi non cambia di molto l'atteggiamento che uno deve avere in corsa. Cosa vedi di nuovo nel ciclismo italiano? Oggi abbiamo riempito due gradini del podio al Fiandre, però non il più importante, su cui è salito Tom Bonen, che ha battuto Pozzato e Ballan. Vedi qualcosa di nuovo in giro per quanto riguarda il ciclismo italiano? Ma io credo che io non ho visto la corsa di oggi, ho solo letto i risultati poco fa e credo che insomma secondo e terzo il Giro delle Fiandre non è cosa da poco. Io credo che il movimento italiano sia in perfetta salute e quando non si vincono le gare come il Giro delle Fiandre o la Sanremo, l'importante è essere protagonisti. Io credo che il ciclismo italiano, come ho detto, è in ottima salute e saprà fare molto bene in questo 2012. Un'ultima cosa, ginocchio va bene, non fa più male, riesce a mettere chilometri, riesce a lavorare, Giro e Tour siamo sempre lì. giro turco. Intanto pensiamo di riuscire a fare il primo, intanto poi vedremo per il tour. In questo momento, guardate, è difficile per me confermare un programma. Chiaro che quelle sono le gare, non è che bisogna tanto girarci intorno, però io sto lavorando per quello, su questo non c'è dubbio, tutti lo sanno, la mia squadra fa quadrato intorno a me perché sa che io sono un atleta che sa uscire anche da situazioni particolarmente delicate, e quindi lavoriamo per essere alla partenza di questo Giro d'Italia. Chiaramente questo incidente ha così frenato un po' e dato qualche insicurezza, però confidiamo, siamo tutti fiduciosi che tutto vada bene. È un bel Giro d'Italia quest'anno? Il percorso, dice? Sì, il percorso. Il percorso. È sempre bello il Giro d'Italia, soprattutto se lo vinci, quindi per il momento è bello, speriamo che sia ancora più bello. Grazie Ivan, bocca al lupo. Grazie a voi, ciao, buona serata, arrivederci a tutti. Grazie al nostro amico. È la conferma. Cos'è divertimento nello sport? Vincere. Cos'è bello nel Giro d'Italia? Vincerlo Andrea, vincerlo, è ovvio. No, certo che deve essere dura, cioè, voglio dire, sali in bicicletta, provi ad arrivare lì, hai un inizio di stagione molto difficile, dicevi tu prima, è molto più semplice per altri sportivi. Non sono legati solo a delle prestazioni, quindi mi viene in mente, quando sono stato in Iran, ho fatto una visita alla palestra in cui si allenano i pesisti, sollevamento pesi, sai che in Iran è una disciplina molto, molto nota, c'era un allenatore ungherese che diceva, sappi che nel sollevamento pesi, se lavori intensamente, se soffri, e se sopporti il dolore arrivi ai risultati, però fa veramente impressione perché il lavoro quotidiano per loro è massacrante. Massacrante. È vero che rispetto agli sport fatti di tecnica, di talento, sport di squadra, la prestazione dipende da tantissimi fattori. Quello fisico, ovviamente, quello tecnico, naturalmente, lo stato di forma, però uno stato emotivo può permetterti di avere quell'adrenalina in più o in meno. Il peso è quello, se sei gasatissimo lo tiri su, ma devi tirare più o meno uguale. Esatto. Andrea Napoli, buonasera, io volevo innanzitutto complimenti per la trasmissione, volevo Grazie. Rispondere all'amico milanista dicendo che mia moglie l'ho baciata, l'ho sposata, ci ho fatto una figlia ed è juventina, e se stasera succede quello che io mi auguro, da domani calcoliamo gli alimenti probabilmente. Se andiamo a togliergli lo scudetto dobbiamo calcolare gli alimenti. Andrea, fai bene i conti, guarda che lo so, magari se De Laurentiis mi passa qualcosa della prossima Champions forse ci rientra, la vedo dura. Non contarci troppo. No, assolutamente, nemmeno a sua mano. E comunque, no, vabbè, volevo dire, a parte gli scherzi, io ho visto partite, sono stato fuori, anche se sono un tifosissimo, però ho letto che il Milan ha fatto l'ennesimo casino, ho visto le immagini e ho letto che il sito è comparso, è inaccettabile, ma sul sito del Catania c'è l'immagine del fuorigioco di Gomez, che non era fuorigioco. Cioè, questa mi sembra arroganza, al di là del fatto io spero che loro passino, hanno avuto anche la sfortuna che mi pare si sia rotto Messi, poverini, che sfortuna, però insomma, quando io sono stato in uno sport amatoriale come il karate, ma sono stato nazionale, insomma un po' di sport l'ho fatto anch'io, quando tu hai avuto in partita il favore del non gol, del fuorigioco di Gomez, sinceramente parlare sì, no, ma poi Andrea, visto che sei sportivo, è stato sportivo, sai bene come secondo me la cosa, una delle cose più fastidiose sia sbriciolare la partita nel fuorigioco di Gomez, nella palla sulla linea, nei due fuorigioco che non c'erano, che sono stati fischiati al Milan, in tutte queste, polverizzare la partita in tutte queste cose, che è stata anche una gran bella partita, insomma. Quindi mettetevi anche nei panni degli uffici stampa delle varie squadre, che in qualche modo per dovere devono solo far vedere ciò che è a loro favore. Il Catania mette solo la foto del fuorigioco, il Milan solo il gol fatto o non fatto, e per un giornalista potrebbe essere anche un po' complicato, perché effettivamente devi mettere una maglietta, devi essere un po' partigiano, c'è chi lo fa con molto piacere e con molta soddisfazione, però qualche volta sarebbe forse più divertente per tutti potersi permettere di guardare, come ha fatto poi Paolo prima, la partita per quel che è, perché è divertente, perché ma gliel'abbiamo detto infatti che è uno strano, è uno strano. Aurelio da Catania, il luogo del misfatto, dica volevo dire dire solo questo: mi ha deluso parecchio Allegri, che stimavo come allenatore, perché era sempre stato sempre pagato, abbastanza pagato. L'unica cosa che poteva dire, l'ha persa di dirla, cioè che c'era stata una bella partita e che alla fine il pareggio ci poteva stare anche bene. E invece si è andata a infognare su un discorso di una cosa che poi nella realtà dei fatti, come avete visto tutti quanti, non c'era il gol forse alla fine. Ma, e quindi noi forse avremmo da recriminare di più per un gol che invece c'era e che è stato annullato. Ma secondo me che non recrimini nessuno, poi l'abbiamo detto, in questo duello infinito tra Juventus e Milan nessuno perde l'occasione di stare zitto. Senti Aurelio... Senti, ho perso una bella occasione. Aurelio, dimmi una cosa, ma come la prendete l'idea che lo Monaco potrebbe andarsene? Ma pare che la cosa sia rientrata ormai. Ma scusa, ma sei in Argentina fino a dopodomani? Avete notizie così fresche? No, che diciamo che le notizie qua più da vicino pare che la cosa nella dirigenza sia rientrata, quindi quindi l'ennesima pace fatta tra il presidente e lo Monaco. Sì. Vabbè, queste sono le indiscrezioni. Queste sono le indiscrezioni, capito Andrea? Queste sono le indiscrezioni, vedremo se verranno confermate dai fatti. Torniamo sempre con Andrea Zorzi qui con me, Alberto da Modena, Mauro da Alessandria. Continuiamo il nostro Giro d'Italia. Alberto, buonasera. Sì, buonasera. Ma volevo dire una cosa velocissima. Sicuramente reazione di Allegri, del Milan, un po' scomposta, ma però io onestamente non sento dire da molte persone che comunque il gol del Catania era comunque da annullare, perché si è visto chiaramente il giocatore sì, che fuori gioco di Bergessio di rientro, non di Gomez, eccetera. Però qua continuano tutti a dire che invece il gol era buono, non capisco il perché, però anche ieri sera Mazzola la Domenica Sportiva, oggi diversi vostri ascoltatori, anche voi non l'avete più di tanto puntualizzato, quindi secondo me non capisco anche qua dove si voglia arrivare. Il gol era in fuorigioco sì, e per una volta il guardaline ha indovinato una bella fischiata, ed è giusto che sia stato così. Poi non entro nel merito, perché sicuramente il gol del Milan era difficilissimo da individuare, anzi probabilmente non si sa ancora se è gol o non gol, sì. ma però mi sembra comunque doveroso dire che il gol del Catania è stato ha ragione, è stato bravo il guardaline in quella circostanza, nelle due che hanno sfavorito il Milan è stato meno bravo, però siamo sempre lì a farla pezzettini nostra partita. Senti, me lo fai fare un collegamento un po' così geografico? Sì. Modena pallavolo, sì. Samuele Papi richiamato in nazionale, sì. 37 anni per le qualificazioni per l'Olimpia. Qualche polemicuccia interna al mondo della pallavolo, ma perché Berruto, il nuovo allenatore della nazionale, chiama Papi che è così vecchio, cos'è? Perché la qualificazione all'Olimpiade è molto importante, c'è anche una questione di natura tecnica, Papi è molto bravo anche in difesa e potrebbe eventualmente giocare anche come libero, però è una buona notizia. E la chiama mai Busto Arsizio, ieri sera ha vinto l'unica Coppa Europea che quest'anno un club italiano è riuscito a vincere. Dal 1984, credo, una squadra italiana almeno va sempre a vincere un titolo europeo. Quest'anno si rischiava di non avere nessuna coppa, perché come sai Trento non è... l'onore è salvo. Ha il Golden 7, sai questa cosa un po' strana, cioè ha perso la gara d'andata, ha vinto la gara di ritorno, a quel punto si gioca un set ai 15 e chi vince quello si porta a casa la coppa. Grande partita, poi sai che a Busto Arsizio veramente c'è una grande passione per la pallavolo femminile, 5.000 e passa persone, molto interessante. Il collegamento era Modena pallavolo. Sì, no, ma tu quindi sei favorevole, cioè sei d'accordo su, al di là dell'amicizia, sul richiamo alle armi del vecchio Samu. Credo sia l'ennesima situazione in cui non esiste giusto e sbagliato, esiste una potenzialità, esiste una possibilità. Samuele senza dubbio è un grande atleta, ha dato totale disponibilità e questa è la ragione per cui Berruto ha detto me la sento di chiamarlo, perché non ha fatto storie, sì però ma vediamo. Può essere un aiuto in certi momenti, questa squadra giovane potrebbe avere bisogno di un po' di sicurezza in alcuni fondamentali di seconda linea, dove Samuele è particolarmente bravo. Anche lì state di capire che ruolo riesce a ricavarsi Samuele, che ruolo gruppo ha in testa Berruto, e come è una persona adorabile Samuele, quindi non ci vedo particolari problemi. È vero anche però che ogni tanto è importante, però è vero anche che questo potrebbe andare ad occupare un po' di spazio per il futuro, impedire, rallentare l'esplosione di qualche giovane. teoricamente è vero. Sì, però sai Andrea, qui c'è un risultato da cogliere. Qui si tratta di vincere o di perdere. Sì, si tratta di vincere o di perdere, si tratta di andare. Quindi se è funzionale all'idea e all'esigenza di andare alle Olimpiadi. Infatti forse la domanda... autolesionismo non chiamarlo. La domanda non è tanto è giusto o non è giusto chiamarlo, ma è in che modo ritiene, quindi sì, Berruto, di poter trovare lo spazio giusto e utilizzare quelle qualità che Samuele ha. Mauro Alessandria. Buonasera, buonasera. E come sempre grazie di esistere. Grazie di esistere, sì, tanta roba. No, io partirò male, ma poi mi riprendo, lo prometto. Metto le mani avanti. Sì. No, la prima telefonata che vi ho fatto è tantissimi anni fa, prima di un Milan-Juventus, che seguivo un Juventus-Milan terrificante, sì, dove si erano viste delle cose inenarrabili. Io vi avevo chiesto se secondo voi dovevamo andare allo stadio ancora convinti di vedere una partita di calcio. Ma secondo me erano altri tempi. Io sono milanista e quella di ieri non l'ho proprio capita, anch'io ho urlato al gol, perché quando guardi la partita è chiaro che urli al gol. Speri che qualcuno se ne sia accorto, se lo era. Però secondo me c'è un errore di base fatto anche un po' da tutti i programmi televisivi, dai giornali. Se magari invece di continuare a parlare di sta benedetta palla, di Allegri e della sua sfuriata, si fosse parlato del bellissimo gesto atletico di Ibrahimovic, che è rimasto in piedi e ha dato quella palla a Robinho, magari non saremmo qua a raccontarcela a tutti. Ma io sono milanista, ripeto, sì, sì. Però sono stufo di queste cose. Cioè, a chi lo dice? Non ne posso più. A chi lo dice? Però anche lei è abbastanza strano, Mauro, perché io devo... No, ma... perché io devo ancora trovare chi insomma preferisce parlare di queste cose, e io preferisco parlare naturalmente di queste cose, di gesti tecnici, di cose apprezzabili, piuttosto che di presunti impieghi di Photoshop. Facciamo un esempio a Mauro, che è una cosa che tocca un po' a me quando faccio con te la trasmissione. Ci sono una serie di opportunità per condurre il programma. Il caso della foto ritoccata, delle belle azioni, delle discussioni, cose belle e cose brutte. Ce ne sono alcune che per qualche ragione strana hanno più forza rispetto alle altre. Sono quasi sempre quelle che sono in qualche modo legate a degli eventi chiari, un po' polemici, che rispetto alle altre hanno la possibilità di riprodursi, di autoalimentarsi e vanno avanti e diventano padrone della trasmissione o dei media. Certo, ma diciamo che un episodio come quello di ieri sera di Catania vale 10 bellissimi gol. No, vale molto di più nel come spirito di discussione rispetto a 10 bellissimi gol. Io oggi ti posso citare il gol di Ljajic della Fiorentina, ti posso citare alcune reti molto belle, però porta abbastanza una sega a nessuno. A che fare? Posso dirti altre cose. È chiaro che parlare delle cose pruriginose fa solletica di dovrebbe più. Essere il nostro compito trovare una mediazione. Chiaro. Però poi dopo, per esempio, in trasmissioni che lasciano molto spazio anche ai radioascoltatori, si vede che comunque la tendenza è più o meno su argomenti di un certo tipo. Quelli che spaccano, quelli che dividono, esatto. Guelfi e Ghibellini. Non so da che parte è Filippo Maria Ricci, certamente in Spagna, certamente corrispondente della Gazzetta dello Sport. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Beh, qua è un pochino diverso. Cioè? Qui, no, il bel gol, il gesto tecnico... hanno ancora un certo valore, non so se proprio possono competere sullo stesso piano rispetto alla polemica, però sono decisamente in miglior posizione che in Italia, mettiamola così. Sì, e d'altra parte la palma assoluta del campionato più isterico del mondo ce l'abbiamo noi, non certo la Spagna. No, certo, beh, adesso noi siamo migliorati qua, da quando è arrivato un ragazzo dal Portogallo. Sì. Quando le cose sono migliorate, però ci stiamo sul tasso isterico, dici, però no, è vero che no, qui comunque c'è, cioè, si vede più spesso la prima pagina dedicata al gesto, al gol, non so, insomma, ieri il gol di Benzema ovviamente, no, ha causato grande emozione. E così, insomma, è un fatto di educazione sportiva, di come, o anche non solo sportiva, anche in generale, quasi sociale, di come si vedono le cose, cosa interessa, di cosa si vuol parlare. Sì, no, ma chiaro, ma c'è la ricerca dell'estetica del bello, come dovrebbe essere. Anzi, sono soprattutto allenatori vincenti. Soprattutto nello sport, il resto non lo so, ma nello sport sì, dovrebbe essere così, insomma, il gesto sportivo dovrebbe essere premiato, poi dopo... Che nel resto, lascia stare, Andrea Zorzi. Non so che dirti, mi viene in mente ogni tanto che l'Inghilterra viene percepita da noi come il luogo nel quale c'è grande cultura, poi se guardi il loro tabloid magari cambi un po' idea su quello che succede, e quindi magari generalizzare troppo è un po' rischioso. Non c'è dubbio che noi in Italia siamo particolarmente affascinati da questo complotto, come lo chiedeva Demo Plutoi, sì. Quella cosa, e quindi effettivamente noi lasciamo tanto spazio a questi argomenti, a quelli più peccaminosi. A proposito di peccato, è impuro pensare che il Milan possa arrivare a Barcellona e vincere? No, vincere perché? Basta pareggiare. Vincere in senso lato. Passare il turno. È impuro, però io ripeto quanto detto la settimana scorsa. Molto dipende dallo svedese. Il Milan non ha tanti argomenti. L'argomento migliore che ha è Ibrahimovic. Se riescono a far gol, perché un gol lo devono fare, vabbè, a meno che non vogliono passare ai rigori, che può essere una via, però lunga e tortuosa. Difficilmente il Barcellona fa due partite di seguito senza far gol, no? Sì. Sarebbe abbastanza un caso. Il Milan deve segnare, e se qualcuno può far gol è Ibrahimovic. Vediamo. Molto dipenderà da lui. Io continuo a dare qualche chance. Certo, ieri sera il Barcellona di nuovo è tornato ad essere molto brillante, però giocava anche con una squadra che usa 13 giocatori e in tre competizioni e aveva giocato 47 ore prima. Certo. Quindi insomma, per quanto si dica sì, sono abituati allo sforzo, sì, anche no, Bielsa e Guardiola tutti e due hanno detto no, ma non c'entra la stanchezza, insomma, secondo me era meglio giocare un pochino prima per l'Atleti di Bilbao. Sicuro. Però detto questo, ieri molto brillanti, per esempio Iniesta, che col Milan ha fatto una partita piuttosto opaca, no? Ieri ha fatto una grande serata, ha avuto. Sì, altra cosa strana, Messi non ha fatto gol all'andata, quindi no, è un altro che è difficile, non ho visto che è un altro segnale storto. Come sta Mourinho? Mourinho abbastanza bene. Ieri, guarda, ecco, vedi, ieri veramente un bel Madrid, casualmente nel momento in cui va sul campo più difficile, più o meno, insieme al Camp Nou per altre ragioni, però da un punto di vista politico-sociale il campo di Pamplona e quello di Bilbao sono i più complicati, tirano fuori una partita eccezionale e Mourinho schiera una squadra a forte trazione offensiva. Gli mancava Khedira e decide di giocare con Granero, che qui diciamo in questa discussione tra centrocampisti offensivi e difensivi viene equiparato a Zico più o meno, non è così, però insomma è uno più offensivo di Khedira. Sceglie di giocare con le tre punte più Osile e il Madrid ha fatto una partita spettacolare. Per cui non si capisce perché devi andare a Villarreal, una squadra in disarmo, e mettere in campo questo trivote difensivo e poi farti prendere dall'isteria quando questi pareggiano sull'unico tiro che fanno. Insomma, non lo seguo tante volte, proprio tatticamente, ci sono degli errori. Poi il resto viene di conseguenza. Però ieri sera, quindi oggi ha la risposta, dico oggi sta molto bene. Sì, speriamo che non ti abbia sentito, se no ti dà due schiaffoni alla prima occasione. Ciao Filippo. No, lo sai che tu vieni squalificato, cartellino rosso immediato. Vabbè, quello sì, probabilmente già tre giornate di squalifica. Sì, è già una situazione de facto. Però no, è quello che pensano tanti spagnoli e io sono con loro qui, insomma, non. Sì. È inutile, questo è un campionato talmente bipolare e talmente diviso che non puoi in queste partite, cioè, fare pensare a delle partite più difensive o meno, offensive. Grazie Filippo, alla prossima. A voi un abbraccio, ciao. Adesso andiamo proprio di corso, 9 minuti, anzi 8 per chiudere la trasmissione, a Roberto, provincia di Terni, buonasera. Dottor Genta, buon pomeriggio. Salve. Grazie per aver portato ancora Andrea ai microfoni. Il suo servizio da Teheran è stato veramente interessante. Allora stia con noi a Pasqua, torniamo a parlarne. Dica. Veramente, possiamo dire che è un animale da microfono, vero? Animale. Lo prendo come un complimento. Prendi come complimento. Lo prendo come. Si dica. Dice così, no? Sì. È uno che buca, che buca, buca. Il, lo schermo, in questo caso il microfono. Sì. Oh, io volevo dire che il Milan, viceversa, si deve essere contento della prestazione di ieri a Catania, perché non so quante squadre sarebbero uscite da quel campo con punteggio pieno. Anzi, credo che la maggior parte sarebbero uscite con le ossa rotte. Sì. Cosa ne pensate? Lo penso anch'io, anche perché a proposito di squadre che giocano molto bene, sul discorso che si faceva prima, mi sono dimenticato di citare Catania, che in effetti in questo momento è una delle migliori squadre d'Italia, soprattutto sul suo campo. Daniele Bologna, buonasera. Abbassi la radio, grazie, perché sennò sentiamo ritorno in cuffia e non possiamo parlare. Grazie. Buonasera. Buonasera. Volevo sapere, volevo dire una cosa, ma secondo lei le voci di cessione sul Bologna possono disturbare l'ambiente, visto che ultimamente non sta giocando molto bene? Bah, insomma, non so se possono disturbare l'ambiente, certamente quando non c'è chiarezza societaria, e di questo abbiamo ampi esempi, i riflessi sul campo ci sono. Io direi che il Bologna stia facendo un campionato splendido, credo che anche la tranquillità ormai raggiunta, la pace dei sensi. L'anno scorso, forse mi sbaglio, non ha fatto un campionato straordinario nel momento in cui la società sembrava che stesse per sciogliersi? Ho perso il conto dei proprietari del Bologna, esatto. Io ti dico la verità. E quindi? No, più che altro, insomma, io credo che in questo momento, correggimi se sbaglio, sia fisiologico per le squadre che tutto sommato l'obiettivo l'hanno raggiunto. Non so, avere la tendenza, e non ne hanno degli altri, avere la tendenza a rilassarsi. Oggi si è visto in maniera piuttosto chiara in questa gara con il Palermo, che peraltro in trasferta fino adesso aveva raccolto nulla. Ecco che parliamo di Superbike, anche perché c'era l'ascoltatore di prima. Allora, sta Superbike, Melandri, cosa ha fatto? Marcello Pollini, buonasera. Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori. Com'è andata oggi? Oggi è stata una giornata eccezionale, una grande giornata di sport e spettacolo, come sa regalare il nostro autodromo e naturalmente i grandi campioni della Superbike. Com'è? Oggi è stata la giornata di Carlos Checa, il campione del mondo in carica, che ha conquistato un'altra strepitosa doppietta davanti a un pubblico veramente caldo, che è stato stimato in 81.000 presenze nei 3 giorni. Tanta roba, tantissima roba. E gli italiani come sono andati? Max Biaggi si è classificato 2 volte al 4º posto, confermando comunque il suo grande valore e il valore dell'Aprilia che guida. Un po' in difficoltà invece Marco Melandri, che soprattutto in gara 2 non è andato oltre la 10ª posizione, ma comunque il campionato è ancora apertissimo, con tanti protagonisti, tante battaglie sportive, un grande spettacolo di sport. Meravigliosa Superbike. Marcello, ci aiuti a capire per quale ragione la Superbike sembra essere la categoria favorita dagli appassionati di moto? Una ragione molto semplice, che qui lo spettatore, l'appassionato, vive a stretto contatto con i piloti. Una delle dei grandi segreti è, ad esempio, il giovedì, quando il paddock è aperto per tutti. Si entra gratis, si entra in contatto con i piloti, questi firmano autografi, sono a disposizione, non sono marziani. Questo è un dato che molte altre categorie purtroppo non capiscono, che la gente ha bisogno di sentire il contatto diretto con i propri beniamini, i propri idoli, e la Superbike regala questo. Non è anche una questione di proprio del fatto che si corre con, ovviamente, moto preparate, moto da corsa, ma moto che possono essere derivate dalla serie, che possono essere anche realizzabili per i comuni mortali. Diciamo che questa è un'altra caratteristica della Superbike: le moto che si trovano nel concessionario, naturalmente preparate per un avvenimento sportivo a livello mondiale, sono molto vicine a quelle, appunto, che si trovano nei concessionari, quindi di conseguenza l'utente della strada vede il suo mezzo che può correre in pista con i grandi campioni. E questa è un'altra chiave molto importante del successo della Superbike. Negli ultimi anni la Superbike ha guadagnato sempre maggiore interesse. Ti aspetti nei prossimi anni che si avvicini a quella che sembra essere la dominatrice, cioè il MotoGP, oppure prenderanno strade molto diverse? 81.000 è un numero spaventoso. Io credo che in una fase comunque difficile, economica, e dove bisogna fare delle scelte, sarà importante comunque una separazione netta tra quello che è la Superbike e quella che è la MotoGP. E avvicinare ancora di più la Superbike alle moto di serie probabilmente aiuterà a decretarne ancora un successo maggiore. il vecchio autodromo di Imola come se la passa, Marcello? Il vecchio autodromo di Imola se la passa più che bene, nel senso gode di splendida salute, energie illimitate. Noi quest'anno abbiamo un calendario ricco di grandi avvenimenti. Abbiamo finito con la Superbike, ma domani stesso avremo i test degli stessi piloti Superbike qui. Poi abbiamo il campionato italiano velocità, che ritorna a Imola dopo 6 anni, i campionati italiani ACXI di auto e un'altra gara importante internazionale che è appunto l'International Superstar Series. Quindi un calendario ricco, ma che non si ferma qui, perché abbiamo concerti, abbiamo grandi revival storici di auto e moto, insomma un calendario pieno tutta la stagione. Imola sempre aperto. Infatti a me è piaciuto molto, non quando ho visitato l'autodromo con Tracce di Sport, vedere questo mix perfetto di piloti quasi professionisti, di piloti della domenica che andava lì, che si divertivano, che guardavano, che sentivano il rumore, e quindi questa vivere in modo molto naturale senza queste troppe separazioni che a volte, come dire, creano difficoltà. È molto molto interessante. Sì, sì, ma ci andiamo a fare un giro in moto a Imola? Ma voi siete naturalmente ospiti ben graditi. Io vengo da motociclista, vengo Andrea Zorzi. Io su quattro ruote sto un po' più comodo. Allora mi accompagni, io metto tutto a casco e poi mi riporti a casa. Se va tutto bene. Veniteci a trovare, perché Imola, come ha detto un pilota oggi, ha un'anima. Sì, lo so. Grazie Marcello. Grazie a voi. Ciao, alla prossima. Grazie a Marcello Pollini, che comunque ci ha permesso di parlare anche di su. Io adoro le moto, tu lo sai. Adesso ci ha dato questo appuntamento in diretta, hanno sentito milioni di persone, mi tocca andare. Ti toccherà andare, no? Mi accompagni. Però è veramente, io non sono un grandissimo appassionato di motori in generale, però quella visita mi ha permesso di capire cosa si intende con lo spiritus loci. Sai, quello spirito che aleggia nei luoghi. Lì c'è ovviamente molto anche di drammatico, perché ricordiamolo, non solo Senna ma tanti altri piloti di moto e di macchine, però è interessante perché gli uomini che amano i motori hanno uno spirito un po' speciale. Andrea Zorzi, anche di domenica, è stato un piacere. Anche per me. A Pasqua secondo me, assolutamente sì. Facciamo una puntata specialissima, che non avrà niente a che fare col calcio, quello ve lo racconto sabato. Grazie ad Andrea Zorzi, Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleone in regia. Torniamo alle 8:30, dalle 8:30 alle 9 con il basket, a più tardi.